nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché? Berlusconi, certo, il mio presidente lo vuole. Però se Berlusconi dovesse diventare premier, vogliamo almeno Galliani presidente dell'economia. Elezioni ogni sei mesi. Ogni sei mesi così mi diventa la squadra più forte del mondo. Ma chi dice che sotto elezioni si compra meglio? Elezioni di mercato e regalino ce la fa, così. Certo. Dicono che Balotelli porta 400.000 voti a Berlusconi. Minimo 400.000. Tu voti Berlusconi? Ovvio. Allora, io voglio incontrare uno per uno questi signori, prenderli, caro Parenzo, prenderli e accompagnarli direttamente nel più vicino ospedale. Prendere per le perché orecchie. Ieri dicevamo, se io incontro qualcuno per strada che mi dice voto Berlusconi perché ha comprato Balotelli, ecco, magari quelli l'avrebbero votato lo stesso, lo prendo e lo porto dallo psicologo. Come si fa a votare Berlusconi perché compra Balotelli? C'è qualcuno, evidentemente. È il tifo. L'ho sentito anche ieri da tifo. Queste voci. C'è qualcuno. Il calcio giuro. È l'unica cosa seria di Berlusconi questo paese. Berlusconi nega di aver detto Balotelli me la marcia. Risentiamo, l'abbiamo già sentito ieri sera, è sempre bene risentirle certe cose. Solo l'8 gennaio lei lo aveva definito una mela marcia capace di creare problemi negli spogliatoi. Cosa è cambiato? Non è così. Dicono che questo è stato un investimento alla campagna elettorale. Non è stato un investimento assolutamente da campagna elettorale, è stato un investimento voluto dalla parte tecnica della società. E poi io l'unica cosa... questo è vero, secondo me, molti speculano, non è che uno compra Balotelli per la campagna elettorale, su, cioè, questo è ridicolo, dai, 20 milioni di euro per la campagna elettorale, non credo. Sono per lui 20 milioni di euro? Ma la voce del giorno è quella di Belén Rodríguez, dopo il mitico intervento di Vittorio Feltri ieri sera qui alla Zanzara, l'altro ieri in realtà, in cui Feltri ha detto che le liste del PDL gli fanno venire con atti di vomito, letterale, sì, virgolettato preciso, e che ha visto in queste liste del PDL almeno 10 mignotte, così ha detto, letterale, senza fare i nomi però. Sì, vabbè, non si possono fare i nomi esplicitamente. Belén Rodríguez dice: Berlusconi mi chiama oca perché non gliel'ho mai data. Persino Berlusconi, cos'è che aveva detto? Che ha detto? Ti ricordi in quell'intercetto? Dai, non puoi non dimenticare. In quale non rimpiastami la memoria, perché la memoria veramente credo che abbia detto, guarda, me lo sono scritto da qualche parte, in un'intercettazione aveva detto che tu non potevi avere cervello perché ti eri messa con... parla male di te e dice una che si mette con questo qua non ha cervello, era Corona. Non te lo ricordi? Beh, questo forse perché non gliel'ho mai data. Vabbè, fa intendere che insomma ci ha provato un po', ci ha provato. Delicata, dai, ci ha provato la signora. Però delicata. Passando a cose più serie, l'abbiamo già detto ieri sera, è una vergogna o no che questi della sinistra alla regione Lombardia, tu che sei di sinistra, facevano la morale al centrodestra per le spese? Sì. Ma ho già detto ieri. Aspetta, facevano la morale al centrodestra per le spese effettuate alla regione, fuori controllo, eccetera. Quando si scopre che, per esempio, un signore che si chiama Carlo Spreafico, del Partito Democratico alla regione Lombardia, gli vengono Carletto. Contestate, ripeto, sono solo accuse, 47.720 euro per 4 anni, ristoranti e taxi, eccetera. L'iscrizione all'ordine dei giornalisti 101 euro, un mini ombrello automatico da 9,40 euro, una roba da straccione, biscotti 5 stelle per 3 euro, confezione di Nutella 2,70 euro, un aperitivo crodino al bar Rosso Rubino 6 euro, fototessere per 8 euro, ricambi per biciclette 55 euro, biglietti di mezzi pubblici, gelati, persino una ricevuta da 0,90 centesimi per un parcheggio. Straccioni. Aspetta, straccioni, corso, se è vero, un corso di inglese in DVD Speak Now, ma anche due opere di Romano Troiani acquistate per 4.000 euro con i soldi nostri. Avete capito? Che straccionaggine. Sempre se tutto questo fosse confermato. Straccioni, vale per tutti. Ma l'ho detto anche ieri. È meglio che lo ripeti. Ma non c'è solo il PD, perché c'è anche una signorina di Sel, c'è qualcuno dell'Italia dei Valori, il signor Zamponi. Le mitiche candidature della società civile, Beccalossi, Evaristo, nostro ieri amato Beccalossi. Bisogna richiamarlo stasera. Sì, no, ieri da noi ha fatto una figura di palta, perché a un certo punto c'era il test. Quanto sei dell'UDC? Cioè, chi è il segretario, chi è il presidente, sì, se sei a favore delle coppie come gay. Come si chiama il Papa, almeno. Siccome quello non sapeva nulla, diciamo la verità, il nostro amato Beccalossi, a un certo punto gli avevo chiesto, ma chi è il segretario dell'UDC? Lui è candidato per UDC in Lombardia, sì, sentite come ha risposto. Test dell'UDC, chi è il segretario dell'UDC? Ma chi è che è? Pronto? Chi è il segretario dell'UDC? Sente malissimo! Dai, chi è il segretario dell'UDC? Sì, sente malissimo, no, parliamo del discorso che hai fatto prima. Ma che me ne frega del discorso di prima? Chi è il segretario dell'UDC? Non ti preoccupare, so io cosa rispondo. Parliamo chi è il segretario dell'UDC? Di cultura di... Ma bambini, che me ne frega di cultura? Della cresta, allora buona serata, ciao. Dai, Evaristo, ciao. Su. Ciao, dai che sono sulla voce. Chi è il segretario dell'UDC? Sta sulla voce, non ti rispondo. Dai! Dai, parla seriamente, non ti chi rispondo. È il presidente dell'UDC? Ciao, buona serata, ragazzi. Chi è il presidente? Casini, con chi è sposato? E siamo qui con Guido Crosetto. Buonasera, capolista al Senato in tutta Italia. Con possibilità, insomma, se la rischia, se la rischia assai. Non per ha il sedere al caldo, non ha messo il sedere al caldo. C'ha un sedere grosso, ma non al caldo, ancora grosso. Nonostante... Non posso essere accusato di averlo fatto. Ho preso la strada più difficile. Nonostante la dieta. Buonasera, innanzitutto. Buonasera, benvenuto. Ben ritrovato. Buonasera. Alla fine, la coppia che noi avevamo previsto qui alla Zanzara quel giorno, il gigante e la bambina, si è messa in moto. Insomma, siamo stati anticipatori di questa nuova. La bambina nuova è alla camera invece, sulla Meloni, no? Sì, la bambina è alla camera. Un po' più sicura. Io invece credo nel progetto, quindi rischiare va benissimo. Male che gli frega, c'hai i soldi, tanto, ricchissimo. Ma se non li ho, non li ho rubati. No, infatti. No, stavo pensando prima che se avessi dovuto farmi rimborsare con soldi pubblici tutta la Nutella che ho mangiato nella vita, avrei aumentato significativamente il debito. Vista pubblico. La stazza, lei di Nutella. Io ancora lei non ci credo alla straccionaggine, però io non ci voglio credere che uno, i 2,70 euro della Nutella, cioè un baratro, tu vai al supermercato, gli compri 2,70 euro di Nutella e poi li metti in conto a Parenzo, al contribuente a Parenzo, a Cruciani, a Cosetto, ma 0,90 ai signori che sono dietro. Cos'è 0,90? Cos'è? Ma sai il biglietto di qualcosa? Quello ricevuto, so. Ma lei fa parte sulla questione della Berlusconi Generation, come dice la signora White Flower. Lei si sente un po' parte della Berlusconi Generation? Dica la verità. O le viene un po' il vomito? Un po'? No, non mi sento parte di nessuna generation. Tanto meno non so cosa sia la Gian Berlusconi. Senta, quanto generation ha pagato di IMU lei, signor Crosetto? Non mi ricordo. Una cifra considerevole? Ho pagato 40.000 euro. Ho pagato una sberla di IMU, ma è giusto che se uno Quanto? Non lo ricordo. Ma come non se lo ricorda? Ma bisogna saperle queste cose. 50.000, 60. Ma perché? Ma adesso tutte le volte 20 che venite qua mi chiedete quanto paga di affitto a Roma? Quanto paga? Ma sono notizie che interessano le persone. Io pago 1.300 di affitto a Roma. L'unica cosa è che le pago le tasse, le pago e tutte le volte che le pago mi rendo conto. Vabbè, l'IMU non la sa. È uno di quelli che ha talmente tanti immobili, paga di IMU. Guardi, non ho talmente tanti immobili. Tant'è che io abito nel mio comune, piccolo comune, nella casa che era mio padre. Guardi. Qualcuno mi dice che lei ha pagato oltre 100.000 euro. Che non è diventata mia. Che chi glielo dice? Fosse vero. Non è vero. Comunque lei è molto ricco. Sarà pure fratello di Italia, ma è molto ricco. Ma appunto, guardi, uno che decide. No, ma infatti è giusto. Uno deve essere, per fare politica, essere libero di poter mandare a stendere o di dire quello che pensa. Cioè, è più facile quando uno è ricco, dice lei, no? Se uno ha un lavoro, qualunque sia, se uno ha la possibilità di tornare a fare qualcos'altro, è libero di dire in politica e di fare in politica quello che ritiene giusto. Cosa che ho fatto facendo un mese prima delle elezioni un partito nuovo e rinunciando. Senta, ma Berlusconi può diventare presidente del Consiglio, secondo lei? Lei se lo augura? Beh, se me lo fossi augurato non sarei uscito dal PDL. Io ritengo che la stagione di Berlusconi, che Berlusconi abbia fatto delle cose importanti, la sua stagione dovesse finire, avrebbe dovuto lanciare una classe dirigente. Ha voluto riguidare ancora una volta il PDL, uno dei motivi per cui noi siamo usciti, ma siamo in coalizione con loro perché siamo siamo di centrodestra, perché non è che posso andare con il centrosinistra solo perché c'è Berlusconi. No, certo. Cioè, e quindi, però abbiamo una contraddizione, lei dice è finita, però se vince il Presidente del Consiglio chi lo fa? Vuole fare lui il premier. Dovesse vincere, chi è che lo fa? Diciamo la verità, diciamocela tutta. Penso che i partiti della coalizione decideranno chi può fare. Io penso debba essere qualcun altro, bisogna cambiare. Cioè io sono stufo di un paese in cui ci possono essere solo 77enni, 80enni o 90enni che governano questo paese. Mi rifiuto di pensare che non ci sia uno nascosto da qualche parte in una stanza buia da andare a liberare di 40-50 anni che non sia in grado di fare allora, per questo. Non l'avete trovato? No, nessuno l'ha cercato. Anzi, se ne esce fuori qualcuno, se qualcuno esce fuori dal coro, gli sparano alla testa o cercano di allontanarlo dai partiti. Beh, quindi chi è il premier vostro? Cosa? Il vostro candidato premier chi è? Beh, se non... lo decidete guardi, dopo indifferentemente o io Giorgio guardi anzi faccio no, faccio loro, no, sì. No vostro da, della coalizione ma della coalizione anzi, chi è? Il, suo, cosa, il premier cosa, di Crosetto faccio... ideale chi è della coalizione l'avrà però un previsto siamo cioè, ai microfoni di Radio 24 se, dove, se voi dovete vincere se voi, se voi, se voi dovreste vincere chi è che lei chi si proporrebbe questo al Quirinale la chiamo al Quirinale pronto batteria al Quirinale sono guardi, Napolitano guardi, siccome, anzi siccome, Cascella siccome non bisogna parlare di se stessi io non avrei problema a dire ok Meloni. Il premio può farlo Giorgia qui Giorgia Meloni si può costruire attorno a lei una squadra di persone giovani ma pigliate il 3-4% non è che potete proporre il premio su Crosetto siamo Alfano, realisti per carità va benissimo le minoranze io però... mi auguro che un centrodestra serio prenda di più però il problema non è chi fa il premio il problema è cosa fa chi fa il premio cioè a me non interessa il nome del premio come se fosse comunque Berlusconi come no se fosse come se fosse la questo guardi non avrei neanche pregiudiziali su Berlusconi se non l'avessi visto all'opera qualche volta io vorrei che le cose che diciamo in campagna elettorale ci sono scritto le cose che si scrivono normalmente nei programmi dovrebbero essere i contratti che si firmano dovrebbero essere rispettati e lui dice l'avete rispettato sono scritti con l'inchiostro simpatico vero no come voi sapete per cui io sono uscito è che io non ritengo giusto aver detto delle cose agli italiani aver avuto in un periodo il potere per farle e non aver incarnato nella politica quelle cose ho capito però Berlusconi dice che l'ha rispettato Berlusconi dice diciamolo che secondo l'Università di Siena è rispettato. I contratti di Berlusconi sono scritti con l'inchiostro simpatico, quello di Carnevale. Che ha giustificazioni per non aver rispettato. Però un po' di inchiostro simpatico. No, posso dirla tutta, visto che sono uscito? Ma non abbiamo rispettato. Le mie critiche e le mie polemiche con Tremonti sono quelle di Tremonti. Con Berlusconi sulle cose che non abbiamo fatto, sulla mancanza di riduzione vabbè, quanto del peso dello Stato. 10%? 20? 20. 30%. 30%. Lui dice l'80% e lei dice il 30%. State messi bene, state pure insieme. Scusi, qual è l'inno di Fratelli d'Italia? Io però ho l'abitudine di dire la verità. È uscito. Questo lo sappiamo che è uscito. Però siete equalizzati con loro. Con Berlusconi che fa la campagna elettorale. Se rimontate e se voi entrate in Parlamento. Cruciani, no, Parenzo lui. Senta, il massimo... No, non sono offeso. Però senta Cruciani. Senta Cruciani. Voleva dire senta brutto stronzo, invece no, senta no. Beh, no, ogni tanto vabbè. No, cioè, il problema non è quello. Chiedo scusa per la parola. Cioè, brutto. Se voi rimontate perché c'è Berlusconi, se non andate non andate da nessuna parte. Un po' è vero. Io sapete che vi adoro, vi amo, per me i Fratelli d'Italia. Per me lei dovrebbe essere premier dell'Italia, lo sa. Ma per me è anche leader della NATO. Scusate, ma qualcuno dovrà avere il coraggio di dire che qualcuno dovrà avere il coraggio di dire che ci può avere un tetto a destra senza Berlusconi o no? Ma sì, però colui lui capito, va in televisione è il capo della coalizione signor Berlusca ma lei ha ragione ma se poi prende i voti e gli italiani lo danno ha il diritto di essere lui il capo della coalizione il fatto di dire che io penso che il centrodestra non possa essere ridotto a Berlusconi sì Berlusconi vabbè, ormai... e che si doveva parlare di temi io vorrei parlare di artigiani commercianti agricoltori parliamo da un mese di Berlusconi sì Berlusconi no so, siamo così. Ritornato a 20 anni fa e il tema della campagna elettorale è Berlusconi sì no no io non mi arrendo io mi rifiuto di arrendermi ma se non ci fosse Berlusconi poi chiudiamo io... la Cler tiriamo giù così tu Zara, via chiusiamo via siamo chi lei vuole far chiudere il mio problema non è dare materiale divertente a voi il mio problema è non far chiudere gli artigiani commercianti ho capito, ma ragazzi siamo in un paese che sta morendo e parliamo di Berlusconi ci sono altri spazi lei vuole mandarci a fare i mendicanti in mezzo alla strada lo dica voi sapete e ci vuole distruggere voi proprio voi sapete parlare dei commercianti degli artigiani ma c'è il signor Barisoni per questo che salutiamo stavamo vedendo prima il filmato caro Crosetto di una sua collega parlamentare, la signora Ceccacci Rubino. Ceccacci Rubino. Cercate su internet, cari amici della Zanzara, che siete in macchina appena fate ritorno a casa e la vostra basta adorabile mogliettina. Basta andare sul sito del Fatto Quotidiano, vi dice, oggi pubblica la degli estratti. No, un attimo, dovevo vedere la signora Ceccacci Rubino. Deputata del Parlamento, ricandidata in un posto praticamente certo nel Lazio. Sì. Lei la conosceva, signora Crosetto? La mia collega del Parlamento. La conosce, molto bella, no? Detta una delle molto più belle. Molto bella, sì. Una delle più belle, una delle più belle del Parlamento. Ha visto prima questo video con noi. Me l'ha fatto vedere lei il video. Io l'ho fatto vedere, come la giudica questo video? È più bella dal vivo che nel video. Sì? Sì, è più bella matura che da giovane. Sì? Sì, sì. Ma è cambiata in queste... Ma sembra più procace adesso di quanto l'era in quel video. Ah, veramente? Sì. Procace, vede come sono figli. Ha fatto il ritocchino allora. No, questo non lo so. No, no, ho detto sembra, cioè sembra. Non è che la conosco. Però non so. Lei parla da fonte certa, visto che lei era seduto accanto per tutta la legislatura. Comunque non è... No, non ero seduto accanto, guarda. No, no mi dispiace. Ero seduto accanto a Viviana Beccalossi. Lei sapeva di questi precedenti? precedenti col signor Tinto Brass, della signora Ceccacci Rubino. Avevo letto già, poi, già, già 5 anni fa. Si può passare da Tinto Brass al Parlamento? È un moralista, no? No, per me, io no. L'ho già letto 5-6 anni fa. No, siccome Feltri non si riferiva a lei, sicuramente, per carità. Ma cosa ha detto Feltri? Non l'ho sentito. Feltri ha detto che Feltri ha detto, è troppo lungo poi. Feltri ha detto che innanzitutto gli fa venire le liste del PD, gli fanno venire con atti di vomito. Tanto la Meloni ha detto subito: ora voti per noi, eccetera. Vabbè. Ma Feltri ha detto: voterà per noi. Che ne sa lei? Lo so, penso voterà per noi. Ma Feltri ha fatto sicurezza. Eh? Lo dice con sicurezza. Lo ha sentito. Non posso interpretare, però penso voterà. Sono, vabbè, è certo che comunque dice Feltri voterà per noi. E poi ha detto anche che ha candidato almeno 10 mignotte. Questo non lo so. Ma secondo lei? Ad occhio e croce? Non ho guardato. Sono 9? Ha sbagliato i numeri? Oppure... No, non ho guardato. Guarda, mi sono limitato a guardare in alcune regioni. Devo dire che mi sono fermato anch'io quando, ad esempio, ho visto che in Piemonte le persone che saranno elette in Piemonte si chiamano Elio Vito. Sì. Sì. Anna Grazia Calabria. Sì. Ma è una di quelle... No, ragazza seria. Però, Anna Grazia Calabria. Perché non è una del territorio. Come si chiama il portavoce? Pure lei del PDL? Come si chiama? Capezzone. Daniele Capezzone, l'ambasciatore Archi, che il Piemonte l'hanno visto in fotografia. Sono i quattro che leggerà il Piemonte. Devo dire che non ho apprezzato, anche essendo un barriolato, il modo con cui hanno fatto le liste. Per esempio, voglio cercare poi i piemontesi che li cercano, sti quattro. Anche la signora successivi. Repetti è candidata, no? Sì, ma lei è piemontese. Ma come mai è candidata a Repetti, secondo lei, ricandidata? Ho già preso una querela per diffamazione da suo fidanzato, marito, compagno, e quindi devo prendere. Ah, il signor Bondi dice. Ma vanno in ticket i due? Non so. Ma Bondi è candidato o no? Sì, sì, come? Sì, assolutamente. In Lombardia, mi pare. Però è giusto, scusa. Sì, è giusto, sì. No? Assolutamente. No, dico, voglio ma ha ragione. È proprio il mio criterio di democrazia. Ha ragione Feltri o no quando dice che ci sono ancora troppe persone molto legate al Premier da quel punto di vista? Adesso andiamo all'osso della questione. Crosetto, mi dica la verità. Non so, mica le ho fatte, sono uscito al PD. No, per però lei conosce tutte queste cose. È vero o no che ha candidato 10 o più mignotte? Sì o no? Non lo so veramente. Cioè, no, guardi, lei sa che se lo sapessi glielo direi. Non conosco le liste. Bisognerebbe mettersi d'accordo sono mille sul persone termine. Candidate. Bisognerebbe mettersi d'accordo sul termine candidate. Senta, però questa sai come una volta ho assistito a una discussione in cui un signore distinto ha detto a una signora distinta tu sei una questo termine, no? Sì. E poi dopo si è corretto dicendo politicamente inteso e non ho capito cosa fosse cosa volesse ah, dire politicamente inteso. Ah, perché ormai lei dice inteso. Il termine mignota magari era politicamente inteso anche nelle parole di Feltri. Senta, ma una volta per tutte lei in un'intercettazione con in una telefonata con Begis ha mai chiamato il cavaliere testa di cazzo? Sai che la parola testa di cazzo è tornata in auge perché certo, la Mussolini si è rivolta in questo modo al signor Scanzi. No, ma io l'ho fatto, sì, l'ho fatto, certo. Ho detto quella testa di cazzo è andato a Milano, aveva altre cose da fare. Cioè, anche lei ha dato della testa di cazzo a Berlusconi. Sì, sì, cosa, vabbè, cosa che dico sempre anche voi due. Cioè, però noi due una cosa, Berlusconi è un'altra. Lei dice quelle due teste di cazzo di bruciare Parenzo. Guardi, è l'assoluta... No, anche a voi lo dico, siete due teste di cazzo, quante volte ve l'ho detto. Ma chi è di più? Lui, però, no, testa di cazzo. Dipende dai giorni. Ci sono dei giorni in cui lei Parenzo è limitabile. Come le targhe siamo. Ma come te lo dico anche al mio figlio. Qual è la più testa di cazzo oltre Berlusconi nel PDL? No, ma in quel caso. In quel caso non la testa di cazzo. Però la più grande testa di cazzo. Detto con affetto. Detto sempre con grande affetto. Ma no, è un termine che uso veramente solo con affetto. Non ho molto altro affetto per molti altri del PDL. Ho molta disistima. Ecco, il peggiore diciamo, servo, tra virgolette, quello proprio più servile nei confronti di Berlusconi, chi è? Vabbè, mi fate prendere un'altra querela. No, perché servile non è mica una parola brutta. Disponibile. La persona diciamo. Più servile, Sandro Bondi. Vabbè, quello, quello d'accordo. Il secondo, allora. Vabbè, perché non vale? Il numero, il podio, il podio del servilismo. Al primo posto, secondo Crosetto, sale Sandro Bondi. No, ma è così. Ma perché devo sempre parlare? Guardi, che poi alla fine... Quanto le costa economicamente venire alla Zanzara tutte le volte? Cioè, una bella querelina. Tutte le volte esatto. È un costo. No, però, primo posto, Bondi. Secondo posto? Parenzo. No, vabbè, ma io non sono candidato al PDL. Come no? Cioè, ho letto un Parenzo. Ma comunque, perché ha ricandidato quelli che a un certo punto stavano per passare con Monti? Lei se lo spiega? No, non l'ho capito, ma non ho capito neanche queste persone che avevano deciso di fare un vabbè, convegno. Quelli perché nessuno li candidava, poi Monti non li voleva candidare, cioè, beh, questo vabbè, è chiaro. Il giorno, se lei si ricorda, il 16 di dicembre c'erano due convegni. In uno c'eravamo io e Giorgia che chiedevamo alcune cose perfettamente. Nell'altro c'erano persone che chiedevano nel PDL Bondi, Monti candidato. Non c'è dubbio, non c'è. Noi hanno avuto, molti, noi alcuni abbiamo, hanno molti appoggi cardinalizi, noi abbiamo saputo. Avuto alcuni una hanno molti Può darsi. Noi abbiamo avuto la coerenza di andare avanti con il nostro percorso, loro sono tornati indietro, hanno fatto una retromarcia, hanno girato i 360 gradi e sono tornati a dire sì, va bene, facciamo quello che vuoi. Altri hanno detto scegliamo la strada più difficile, mettiamo a rischio quello che sembra la cosa più importante, che è un posto alla Camera, sì, facendo un nuovo partito in 30 giorni. E Fratelli d'Italia nasce così, da una scommessa. Ma qual è l'inno? L'inno qual era? C'era un inno di Fratelli d'Italia alla fine? C'era un inno o no? No, è l'inno, c'è un Fratelli inno. D'Italia. No, siamo seri, quello è l'inno. Come? Degli italiani, non di un partito. No, quello è chiaro. Ma non avete fatto un inno, niente? No, adesso vediamo Sanremo se è qualcosa che ci piace. Anzi, lo chiediamo a Berlusconi se ci scrive qualcosa, visto che lui con il jingle ha sempre un discreto successo. Ma su Mussolini ha ragione Berlusconi o no? Su quale? Sulla fatto, cosa ha fatto bene. Ritengo che nel giorno in cui si ricordano le atrocità del nazismo. E vabbè, quello è l'opportunità, l'abbiamo avuto, ma nel merito. Su che cosa? Su Mussolini urbanista, che poi ho sentito il giorno dopo che diceva dal punto di vista urbanistico Mussolini ha fatto grandi cose, ma questo lo dice anche Parenzo, cioè che non è il giudizio su Mussolini architetto, Mussolini urbanista, sì, Mussolini che fa le bonifiche, il podio è che quel giorno lì probabilmente se non parli Mussolini vabbè fare. In questo lei è in disaccordo con la Russa, per carità, ma certo, il podio del servilismo, però lo voglio, il podio del servilismo, su il primo è Bondi, il secondo proprio nel suo podio. Ma secondo lei a quelli che stanno andando a casa signor del lavoro Cicchitto, adesso che stanno bestemmiando perché hanno avuto si vogliono mille problemi, divertire, ci vogliono divertire, ci vogliono divertire il come Massi, ci vuole indicare come fare la trasmissione, guarda, è una cosa pazzesca. Ma dietro Bondi non può andare nessuno, Bondi è proprio super è oltre Uber Bondi. Stava presente la scena, come buono lei, sai che mi ricordo com'è che fa, come buono lei. Grazie. Zitta, merdaccia! Com'è che era? Dicevano così. E così siamo altri. Però non c'è informazione, no, non mi pare. Zitto, Fantocci! Fantocci, lei è una merdaccia! Come gli faccio? Oh, grazie. Merdaccia! Guardi, questa cosa vale tutta questa mezz'ora. Io posso dire, vale tutta la mezz'ora. Fosse un po' che per venire qua e prendermi in giro mi deste anche 5 euro. Quasi la voto. Dov'è il Senato? Ragazzi, devo venire qua per fare il pagliaccio. Io voto in Lombardia, lei pure al Senato può votarmi, sì, può Senato in Lombardia. Faccio il capolista in tutta Italia. Tutta Italia. Sì, sono un simbolo piccolo di questo partito. Vabbè, a presto. Grazie, Guido Crosetto. Fratelli d'Italia. Grazie. Fratelli d'Italia. Cerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu! C'è da lavorare ancora, ma io spero di non avere più tra le ruote Casini e Fini, non li avrò più, che impedirono sempre una serie determinate di misure. Ma signori e signori, volete sentire qualche piccolo pezzo in spagnolo dell'onorevole Ceccacci Rubino, che è passata da Tinto Brass al Parlamento, per carità, dopo un'altra carriera da attrice, teatrale, eccetera, eccetera, eccetera? Ceccacci Rubino in spagnolo. Ma quanto lo dejo? No estás aquí guiando mi mano. La idea de tu mano. La vibración de la cuchilla me insinúa el deseo de empujármela dentro. Ahora no. Estoy rasurada como a ti te gusta. Mi cuerpo, tu cuerpo echado en el suelo. La vibración. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Scandalo Monte dei Paschi, interrogato a Siena per 5 ore come testimone, Cotto i tedeschi, indaga anche la procura di Roma per manipolazione del mercato. Vertice con Angela Merkel, Monti bilancio più equo e su Facebook denuncia gli intrecci tra politica e finanza, tenere i partiti lontano dalle banche. Bersani, banchieri siano fuori dai partiti, basta lezione di moralità, Berlusconi, Monti usa il suo tour europeo per far campagna elettorale. Nell'Associazione Nazionale Magistrati uno stop alle polemiche tra Ingroia e Boccasini, inopportuni richiami ai nomi di Falcone e Borsellino. Nelle università italiane 58.000 iscritti in meno in 10 anni, è come se fosse sparita la statale di Milano, diminuiti anche i docenti. Una sentenza della Cassazione stabilisce che è penalmente irrilevante il consumo di gruppo degli stupefacenti tra un mese e le motivazioni. Un bimbo di 5 anni ostaggio da 2 giorni in un bunker in Alabama, l'uomo che lo ha sequestrato ha già ucciso l'autista dello scuolabus. Danzano come zanzare. Queste ombre. Il mitico, inimitabile Oscar Giannino su Monti, che ha raccolto le firme per presentare le liste. Sentite dove? Nelle piazze abbiamo trovato non tutti quelli che hanno detto di aver raccolto le firme. Infatti io avrei alcune curiosità, perché io quelli delle liste di Monti con i gazebo non li ho visti. Dalla Val d'Aosta a Canicattì segnalati da nessuna parte. C'erano quelli di 6, di 5 stelle. Chissà, le avranno raccolte nei concessionari della Ferrari. Su questo Giannino insiste perché dice che Monti è l'uomo della Fiat. Ma sentite quale metafora usa, una metafora molto zanzaresca. State attenti, ascoltatori, eh. A proposito di Grillo, con Grillo... Sentite. Però il problema è che quando Beppe Grillo apre la bocca con le proposte economiche, io vi devo fare riflettere, cari amici, perché il problema non è essere d'accordo o non essere d'accordo. Il problema non è il giorno in cui il Movimento 5 Stelle si avvicinasse a posizione di governo, dice magari in Europa non sono d'accordo. No, il problema è che i mercati e l'Europa ci manderebbero l'ambulanza in Italia con quella proposta. Cioè. Beh. E Giannino manda l'ambulanza a Beppe Grillo. Ma noi Grillo lo sentiamo, eh? Lo sentiamo per intiero, per intiero. Grillo, chi sbrana Bersani? Gargamella ha detto, dopo il Monte dei Paschi di Siena, dove sono tutti dentro nella marmellata, ha avuto il coraggio di dire: se ci toccano li sbraniamo. Ma cosa vuoi sbranare con le gengive? Non c'hai neanche più i denti. Hai succhiato per 20 anni Berlusconi, lì dovevi sbranare. Però io non mi amo. Diamo le coordinate ai missili francesi, questa è bella, molto bella, questa è bellissima, sentite. Cioè, facciamo i sistemi di puntamento dei missili, dei MiG francesi sui musulmani e sui Tareg, gli diamo le coordinate giuste di dove devono andare i missili. È un po' più a nord di voi, è in mezzo all'Italia, è lì a Roma e i missili andranno in un posto dove vige il nulla, il Parlamento italiano. Terrorismo, questo è terrorismo, è terrorismo, è terrorismo, al mio 3, 2, 3, terrorista. È tutto qua. Ma è sempre il numero uno come comico, è sempre il numero ironico. Uno, dai. È sempre il numero due, vai, su, non negarlo, ma è che ormai dai. È un politico, quindi non è più un comico, è un politico, è un capo assoluto di un movimento e quindi non deve incazzarsi se usa un linguaggio che se lo usasse un politico qualunque gli sparerebbero, hai capito? E invece questo qui, siccome adesso fa il politico e non è più un comico, perché è il capo leader assoluto di un movimento 5 Stelle Scientology, deve moderare il linguaggio. Bisogna processare, dice Grillo, tutto il Partito Democratico. Ora, per carità, sarà esagerato quello che dice Grillo, che provoca, eccetera, ma che questi vogliano chiamarsi fuori, che si vogliono chiamare fuori. Ieri Belpietro ha fatto un mazzo così, secondo me, alla Bindi a Porta a Porta. Ha fatto un mazzo così, spiegando come ci siano dei finanziamenti che sono obbligatori per alcuni membri di MPS, per i dirigenti che vengono dati al Partito Però Democratico. È una questione che riguarda il PD di Siena, non ma il non PD è, ma che stai dicendo? Ma che, ma chi l'ha riguarda detto? Riguarda sicuramente ma il Partito Democratico. Mai, sì, ora il PD nazionale querelle, non mette bocca, è ma una querelle tutta interna al Partito Democratico senese. Sì, che spesso infatti è stato in disaccordo. Ma a me non me ne frega nulla del Partito Democratico, ma è solo per dicendo rimettere a posto. Ma non cose è vero, stai, cioè, dicendo una falsità. Non mi risulta, dici una falsità. Non mi risulta ancora oggi di telefonate tra il dottor Mussari, già presidente MPS. Chissà perché ci sono le telefonate di Berlusconi e io se non ci sono le telefonate degli altri. Non mi risulta altri che Mussari telefonasse a Bersani, sì, per spiegargli le operazioni finanziarie che faceva. Ma sicuramente che ci sono, ma cosa invece c'entra? Incontri col PD senese, ma che è quello ma dal quale... Ma sei così ridicolo a ridurre, scusa, il peso del Monte dei Paschi ai rapporti col PD senese, non al PD nazionale? Indubbiamente, ma sei ridicolo o no? Indubbiamente. Fammi sentire la Grillo, fammi sentire Grillo, che non c'è tempo. Senese. Sì, tutta senese, infatti, Grillo, se solo tu ci puoi credere. Una banca che sono entrati in borsa attraverso una fondazione e la fondazione era in mano a tutto il Partito Democratico dal 95 e oggi andrebbero processati tutti del Partito Democratico che hanno disintegrato il risparmio di una regione. Ma vorrei capire una cosa, direttorissimo. Ma il signor Caltagirone, Domenico da Roma, non c'è tempo. Non mi interessa di Domenico. Che sedeva, nel Consiglio d'amministrazione di Monte dei Paschi. Cosa? No, basta, lo dico io. Domenico da Roma. Cosa disse dell'acquisizione del 2007 di Alto Veneto? Domenico da Roma. Che diceva Caltagirone? Ecco, Domenico da Roma. Pronto? Domenico da Roma. Buonasera. Che diceva Caltagirone? Ma stai zitto, ma non mi interessa. Che diceva Caltagirone? Ma vai a Focus Economia. Domenico da Roma. Che diceva Caltagirone? Domenico da Roma. Che diceva? Pronto? Vada. Pronto? Vada. Senta, io non so se ci sia ancora Crosetto lì con non voi. Non c'è, dica, vada avanti. Allora, il mio punto di vista è questo. Io sono una persona anziana, di sinistra, o almeno sì, così da dire, e tutto sommato, persone come la Crosetto e la Meloni... La Crosetto è diverso, Crosetto e la Meloni al massimo, non la Crosetto. Crosetto e la Meloni, sì, probabilmente c'è stato. Sono delle persone che tutto sommato sembrano delle persone oneste con le quali si può discutere. Vabbè, allora vado al sodo, Domenico, vado al sodo, vorrei sapere, allora, com'è possibile che queste persone così pulite si possano immischiare con un... picchiatore fascista come la Russa. Ha detto la stronzata della serata. Ha detto la stronzata della serata. Grazie Domenico. Giuliana da Milano, buonasera. Mi faccio un ragionamento politico, non il picchiatore fascista di la Russa. Su Domenico. Giuliana, c'è o non c'è? Non c'è. Fabrizio da Chieti. Fabrizio? Enrico da Monza, buonasera Enrico. Salve. Vorrei fare una domanda a Parenzo che mi dia una delucidazione perché sono molto allibito. Allora, un proposito per le regionali dice: ho chiesto che chi verrà rieletto di dimettersi in caso di rinvio a giudizio, cioè dice che quando uno verrà rieletto ci dovrà dimettersi. Ma scusa, ma allora è meglio che non voto, scusa, se sbaglio mi dà la scorta e mi dà il regalino. Cioè, è assurda questa roba che io devo votare uno e dopo magari mi ritrovo che è anche un disgraziato. Ma quella, Enrico, scusi, la responsabilità è di chi candida delle persone. Ho capito, ma io devo votare, ragazzi. E vada a votare, vada a prendersi i nomi delle, siccome la regione. Perché dopo me lo dimette? Perché dopo me lo dimette? Quello che voglio dire, io mando su Parenzo. Dopo dicono che è implicato, dopo lui lo ha capito. Ma Ambrosoli ha detto un'altra cosa. Ha detto: un conto è una persona indagata, un conto è una persona rinviata a giudizio. Allora, qualora venisse eletta una persona attualmente indagata e poi rinviata a giudizio, si dovrà dimettere. Questo ho detto, ma non me ne frega niente. Ma io devo votare uno. Allora, cos'è? Prendo la scossa se do l'esattezza mi danno il regalino e se sbaglio mi prendo del pirla, ma fammi capire. Votare una cosa che sono sicura, mica che dopo. Benissimo, lei va a votare, vede i nomi delle persone, appunto, e si informa su queste persone qui, e se secondo lei essere inquisiti è un problema non la vota, punto e basta. Maria Pia da Bologna, buonasera, non capisco dov'è il problema. Cioè, Maria Pia da Bologna, buonasera. Buonasera, le preferenze, tra l'altro. E anche a dottor Sì, vada, Parenza. Vada, Maria Pia, vada. Sì, vado. Io volevo intervenire l'altro pomeriggio, però sì, no. Sì, va bene, è uguale, vada. È uguale, sì, va bene. Perde tempo, ci distrugge tutto. Volevo fare un appunto sulla Mussolini, che lei ama fare i salotti, sì, è insopportabile, non ha un minimo di dignità, e per lei quando parla di suo nonno, del Duce, è un uomo da osannare, poi minimizza, misconosce gli atti criminali che ha compiuto e che ha portato allo sfacelo. Vabbè, ma ognuno con i familiari, ha l'atteggiamento che ha. Cioè, non mi sembra... va bene, comunque è una vergogna, perché lei, come dico, non ha colpa di essere la nipote del Duce, perché è nata, allora? È nata dal figlio. Dunque? Ecco, però la sua colpa... Qual è la sua colpa? La sua colpa è di minimizzare, lei si dovrebbe occultare la Mussolini. Come ha fatto il padre Romano, cioè? Mussolini, ottimo musicista, cioè dovrebbe nascondersi, che non parlava di... Ma quella è deputato, fa politica da 20 anni, tutto, ma chi se ne importa, ha fatto tutto tranne che nascondersi. Ma guardi che è peggio, ma perché non ho capito, perché con quale faccia Maria Pia, ma non ho capito presente. Ma non ho capito, perché uno si chiama Mussolini non può campare, non può fare politica, ma di che parliamo? Ma io non ho detto che lei e non allora deve non campare. Dica stronzate, lei sta detto, dicendo un'emerita stronzata. No, lei adesso, dottor Crociani, lei cambia il significato di quello che voglio dire. No, lei sta io dicendo una stronzata, che una che si chiama Mussolini si dovrebbe, come ha detto lei, occultare, cioè nascondere. Ma lei si deve presentare, lei può presentare così allora, come se suo nonno avesse fatto un piccolo ma lei errore. Si può presentare, si può presentare cercando... a petto in fuori dicendo secondo me mio nonno ha fatto cose buone, poi ci sarà qualcuno che la contesterà, ma non capisco perché lei deve impedire a una persona di fare politica, di presentarsi, di candidarsi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai mi ha beccato, ai ai mi ha beccato, gratta gratta ma peggio è. Beh, devo dire che valeva il prezzo del biglietto, come si dice in questi casi, no? Sentite cosa ci ha detto pochi minuti fa Guido Crosetto, candidato per Fratelli d'Italia, su Bondi. Sapete che tra i due c'è una querella ormai da qualche giorno, perché Crosetto dice che Bondi ha fatto candidare la sua compagna, che è il più servile di Berlusconi, anzi no, questo ce l'ha detto a noi. In realtà, insomma, sentite. La persona più servile, Sandro Bondi. Dietro Bondi non può andare nessuno, Bondi è proprio super. È oltre, Uber Bondi. Stava presente la scena, come buono lei. Sai che era americano. Com'è che fa? Come buono lei. Oh, grazie. Ma l'originale qual era? L'originale? L'hanno trovato l'originale su a Milano, i bravissimi nostri collaboratori. Sono Riccardo. Beh, i bravissimi collaboratori. Sono Laura. Trovato l'originale di Fantozzi o no? Sono Valeria. Allora, me lo saluti, questo abito. Signor Cesare, come umano lei, pretoriano, Molto umano, cioè. Pretoriano. Ma io sono incazzato soprattutto con un signore che si chiama Carlo Spreafico. Voglio sapere se questa cosa è vera o no. Stasera, prima della fine della trasmissione, riuscirò a scoprirlo, te lo giuro. Adesso abbiamo un ospite, abbiamo tempo. Grandissimo ospite. Poi bisogna fare l'elogio della Cassazione per oggi. Sì, sulla... l'elogio della Cassazione. Dopo. Allora, Carlo Spreafico è un esponente del Partito Democratico in Lombardia. Pare non ricandidato. Vengono contestate, però, questo è tutto da vedere. 47.720 euro, cari ascoltatori. Vostri soldi che voi avete nelle tasche in questo momento e che qualcuno vi sfila così per darla ai gruppi regionali, ai gruppi parlamentari, questa vergogna del finanziamento pubblico della politica. Ma non c'è solo questo, perché questo è un discorso generale sul finanziamento pubblico della politica, c'è il discorso di come vengono spesi i soldi. Insomma, questo signor Spreafico li avrebbe spesi in questo modo. Avrebbe pagato 100 euro per il rimborso per una tassa sull'ordine dei giornalisti. Beh, quella paghiamo tutti noi. Io la pago con i soldi miei. Perché io la devo pagare al signor Spreafico? Anch'io la pago con i soldi miei, ovvio. Stai a sentire, 9,40 per un mini ombrello automatico. Ma è la cialtronaggine che mi dà fastidio, non sono i 9 euro. Ma straccioni, 9 euro per un ombrellino. Biscotti 5 stelle per 3 euro, quelli che si trovano all'Esselunga nei supermercati. Sì. Confezione di Nutella per 2,70 euro, tu capisci che uno va... No, a me fa impazzire 0,90. Uno va al supermercato. Il rimborso dello 0,90 mi fa impazzire. Aspetta, 0,90 sono un parcheggio. Ecco, quello mi fa impazzire. Ma perché? Spreafico, se è vero, devi presentare lo scontrino di 0,90. 0,90, amico mio! Ci stai spremendo tu come un fico, signor Spreafico. Questo non è male, però. Bene, abbiamo Zaccaria da Milano abbiamo la Cassazione che dice che il consumo di droga di gruppo non è reato. Amici che siete in macchina, fumatevi una canna alla faccia di Giovanardi. Abbiamo qui un amico di Giovanardi. Di Modenese. La cosa bella è che è il consumo di gruppo di una canna. Perché si possono fare le canne di gruppo. No, ti spiego, tu che non conosci, io mi sono fumato qualche canna. No, molte canne, dì la verità. Molte canne. Adesso chiederemo al nemico di Giovanardi se si è fumato qualche canna. Qualche canna me la sono fumata. Sì. Però il bello è farlo in gruppo. Vedete, uno da solo, un coglione. Uno che si fuma una canna. No, io lo sai che facevo. Io faccio una confessione. Si canta Guccini, si canta l'Internazionale, si fuma una canna. Questo lo fai tu, d'accordo. No, voglio dire. Io ti spiego, siccome sono stato sempre uno sportivo nella vita, non mi sono mai fatto le canne, però un po' mi vergognavo perché avevo tutti amici. Tu non bevi? No, bevo non poco. Fumi e non fai sesso neanche? No, quello sì. Quello sì, sappiamo. Molto anche. Però il problema è molto semplice. La cosa è questa, siccome mi vergogniamo un po' di questa cosa, allora che facevo? Me la facevo passare la canna di gruppo, che adesso abbiamo saputo dalla Cassazione che non è reato. Non è reato. Fortuna, no? e la mettevo in bocca. Sì, e non aspiravi. E non aspiravo. Come veri sfigati. Quando lo confessavo, dicevo, tu la sprechi in questo modo. Tu sprechi un tiro. Sprechi un tiro. Sprechi il fumo, fratello, si diceva. Dai nostri... so, fratello, dai. Va bene, tiro. Questa è la Zanzara, Zaccaria da Milano, poi vi presento l'ospite. Ah, Zaccaria l'ex presidente della Rai. No, Zaccaria è il nome. No, ah. Zaccaria è il nome. Vi presento un ospite che ha molto a che fare con... Con le canne, no? No, con le canne, no, ecco, non credo. Non capisco. Magari sì, però non c'è niente di male, ma con Giovanardi. È di quella stessa zona, ma non è molto amico di Giovanardi. Zaccaria da Milano, prego, Zaccaria. Signor Zaccaria. Signor Zaccaria. Che allora, che vuole dire, signor so Zaccaria? Che a lei non piace... No, non mi piace che qualcuno le faccia dei complimenti. No, però no, non sopporto. Io non dico, non dico nemmeno buonasera. Luciani e Parenzo, la Zanzara è il sì. mito per me. Io sono tunisino, no? Sì, sono tunisino. No, sono beh, noi, a noi piacciono molto i fan tunisini. Cioè, non è no, che me, no, no, no, ma io sono tunisino, sono qua da 25 anni. Sì, sì. Allora? Sono qua da 25 anni, ho seguito... Sì. Sì. Seguito, allora? Seguo sempre l'Italia da 25 sì. anni, dunque allora? Conosco tutta la commedia. Sì. Sì. E voglio dire a Parenzo sì. di smetterla di fare questo buonismo gratuito, sì. perché lui sta sugli immigrati, facendo... dice lei, sugli immigrati. Sì. Sì. Sì, è la solita, lui... la solita tarantella di Parenzo che si incazza sugli immigrati. La solita tarantella di Parenzo, troppo buonista, sì, troppo buonista. Ma lui bene. Non sa cosa stanno sopportando gli italiani. Sì, però è vero qua. Che servono e fanno lavori che gli italiani servono. Non vogliono fare. Sì, però devono integrarsi. Vabbè, Zaccaria, la ringrazio, la ringrazio dei complimenti, la ringrazio. E abbiamo qui l'avvocato Gianpiero Samorì. Buonasera. Buonasera. Il mitico. Amici. Lo possiamo anche toccare. Sì, lo possiamo grazie. Anche toccare. Mia, che doppio petto pazzesco, elegantissimo. Beh, oh, fondatore di un movimento che si chiama MIR. O MIR. Qui o lì vota sempre Com'era? O qui Com'era? Questo era il tuo suggerimento qui, per lui. O lì, vota sempre Samorì, è giusto. Questo Mir, è il suggerimento. Mir, non Samorì, Mir. Vabbè, anche Samorì. Movimento. Mir di Samorì. Però scusi, Mir, io ho sempre pensato, ricorda un... Sembra in Nar. Mir, no, Nar. Un movimento rivoluzionario latinoamericano. Ha due significati. In russo vuol dire pace. Ah. È un significato... molto bucolico pace eterno pace. Porta pure sfiga per la pace eterna in America Latina vuol dire movimento squadra rivoluzionaria che è molto lontano dalla sua ma lei che cos'era in gioventù? Comunista come tutti quelli che sono diventati di destra? Ero donacateniano democristiano Don sinistra sociale ma come cristiano. Si fa a essere donacateniano? È anche difficile da dire cioè lui si faceva le canne io no però lei adesso è donacateniano sai che è quello qua perché succede un casino è quello che sì. era più sensibile a ai che temi cosa? Sociali sì. ai problemi della gente però non si faceva le canne sicuramente no, si no, no, lei se ne è mai fatta le canne? Io non fumo ce l'ho da tracheite ho dei disturbi se fumo mi uccido ma le canne proprio no è meno che meno meno che meno deve sapere che ma le piace questa sentenza della Cassazione no fanno bene che ne sa lascia ma che ne so io della Cassazione? La Cassazione sulle so neanche canne. Dov'è? È qua a Roma. Ah, sì. È qua a Roma. Cassazione. Ma fa l'avvocato? Come non so dov'è la Cassazione? Ah, mo, sono l'avvocato di provincia. Sì, ma per modo sì, di dire, poi avvocato. Lei ma fa sì, più l'avvocato. Gli avvocati di provincia che vanno nelle preture. Sì, nelle preture. Il MIR, come sta andando il MIR? Malissimo, bene, mi sembra. Benissimo. Dai sondaggi molto male. Se lei dirà bene, io dico molto dai male. Sondaggi lei dice sicuramente bene, io devo dire molto male. Dai sondaggi benissimo. Ho fatto un sondaggio in casa mia. Ma lei va in Parlamento? È sicuro di andare in Parlamento? Un sondaggio lei da sola, in casa però, no, limite, non, lei da sola. No, io a me non mi interessa a me personalmente no, allora facciamo una scommessa nel qui. PDL che mi che la ha ragione questo gli fa onore però. Poi, scusi, non ho neanche chiesto il diritto di tribuna però scusi un attimo Samorì. Questo gli fa onore ha chiesto tutto sì Samorì, scusi un attimo però sì. Mi dica la verità poi lei che ci fa con lo stipendio da parlamentare niente io lo regalo al movimento io non voglio stipendi io sono di questo parere però sono dei che guadagnano tutti anche pochissimo i parlamentari tutti no? Eh? Guadagnano anche poco rispetto a lei no rispetto a me sì ma guadagnano fin troppo cioè sono degli straccioni io sono del parere che tutti quelli che hanno un reddito superiore allo stipendio non devono prendere lo stipendio da parlamentare ma non solo anche gli altri stipendi cioè chi guadagna più di 12.000 euro chi guadagna più di 12.000 euro al mese di su e continua a guadagnare anche dopo non deve prendere lo stipendio è ad assorbimento perché vabbè, c'è capito, senso però è una cosa comunista quella che dice no lei. È oltre un servizio certo ma sai adesso vi do cioè un... Ghedini non dovrebbe prendere lo stipendio di parlamentare no. Ghedini niente, Longo sono soldi rubati allo Stato non ne hai bisogno Ghedini ruba soldi allo Stato no Ghedini solo tutti quelli che hanno questo ma scusa ma è il senso del servizio cioè chi non ha un euro lo capisco deve essere retribuito sennò può far politica cioè lei dice chiarito, che chiunque ha un reddito superiore a quello del Parlamento non deve prendere il non deve prendere i soldi del Parlamento no assolutamente no Vabbè, ho capito, però è un servizio, beh, però è una proposta... ma è una funzione sociale, cioè, per cui per esempio Ghedini e Longo, i due avvocati di Berlusconi, come giustamente suggerisce lui, siccome sono molto ricchi, non dovrebbero prendere assolutamente lo stipendio, non dovrebbero prendere assolutamente, no, ma mica solo Monti non dovrebbe prendere niente. Catrica Monti ha rinunciato niente. Però lo stipendio. No, ha rinunciato, ma non ai vantaggi previdenziali, e prende 7 pensioni. Io penso 7, invece no, sì, sette prenderà pensioni. 4, sì. Io dico che la regola è che quando la coperta è corta, bisogna darne un po' a tutti. Questa è ragione, Samuele. Punto. Allora, chi lavora nello Stato, chi lavora, deve stabilire che ha diritto solo a un trattamento, no, ma quello il sicuro, più alto, quello sono d'accordo, ma non è così. No, no, che non sia così, non c'è dubbio, ci sono cumuli su cumuli su cumuli. E non va bene. Ma glielo vado a spiegare ai suoi io colleghi sì, del PDL. Quando però. Io vado in Parlamento lo spiego a tutti. Ma quelli se le fanno in televisione lo spiego a tutti. Ma le fanno bubù quelli lì però. Ma chi abbia paura, non ho avuto paura delle banche, ho paura dei miei colleghi parlamentari. Ma anche lei vengono iconati di vomito come a Feltri, come ci ha detto qui alla Zanzara, a vedere le liste del PDL. Ma io non neanche guardate. Vabbè. Insomma, le liste, diciamo che dei grossi elementi di novità non ci sono, non ci sono. No. Sicuramente gente molto per bene, anche donne, uomini, tutto. Mignotte dice Feltri, almeno 10 mignotte. Si riconoscerà. Feltri ha detto almeno ci sono 10 mignotte. Così che... A lei non risulta, allora, avvocato. No, io non lo so, io non posso dire, le decine di no. Sì, ho capito, però magari... è vero che non è in Parlamento, per cui non le conosco. Feltri, sai, magari le frequentate e lo sai. Frequentelo, questo non lo sapevo. Io sono sfortunato, non le ho frequentate, non lo so. Senta, lei è d'accordo con la patrimoniale addirittura, mi hanno no, detto. No, io sono d'accordo. Oltre un certo numero di... Sono d'accordo perché nell'ambito di... L'unico nel centrodestra che lo sì, dice, ma l'unico che ha buon senso. Io sono d'accordo, nel senso che all'interno di una riforma un po' più complessiva, dove si vanno a prendere i soldi alla Banca d'Italia, si vanno a prendere i soldi alla Fondazione, molto ricchi, si vabbè. Riducono le imposte, eccetera, eccetera. Chi ha più di 10 milioni di euro netto, di patrimonio netto, dovrà pure dare qualcosa anche lui. Dunque, anche lei, io sicuro. Ah, perché lei il suo patrimonio ammonta oltre 10 milioni? Sì. Ma lei è molto ricco. Allora. Beh, no, non credo che questo sia vestito, molto ricco. Questo vestito? Ah, questo me l'ha regalato una persona, non so cosa. Costerà quanto l'istruzione di Cruciani lei? Questo? Non lo so, me l'ha regalato mia compagna, quindi non so, è un regalo. È un taglio meraviglioso però questo. Grazie. Cioè lei quanto spende per vestirsi? Per pochissimo, perché ho dei vestiti, io non, sono cioè, molto ordinato fascis, di natura. Perché da con tutto il rispetto. Durano tanto. È roba da OVS, non è che va all'OVS, con tutto il rispetto dell'OVS. No, sinceramente all'OVS no, farebbe così. Cioè se li fa fare i vestiti, immagino. Sarto personale che si no li compro fatti non nell'OVS siamo attaccati no, diciamo il marchio ma lei se li fa fare proprio su misura c'è un sarto che viene compro... avvocato Savorì no. Il cavallo qui è un grazie, po' strettino ma... va stretto va allargato il cavallo no perché io sono un 48 perfetto di vita di pancia e quindi non ho bisogno di qual è la cosa più bella che si è comprato questo è divertente io sono un aereo personale io sono un appassionato di argenti. Come di argenti? Argenti. Come i Re Magi, oro, argento. Ho tanti hobby nella mia vita, per fortuna. Ho l'archeologia, la storia, la filosofia. E ho anche la passione della collezione degli argenti. Bellissimo. E la cosa più costosa più d'argento? Bella che mi sono comprato in vita mia, quella che mi la guardo sempre, è un servizio d'argento che è appartenuto a Napoleone III. Pure. Con le lame dei coltelli. Ma quel Napoleone III lì? Quel Napoleone III vero. Non con le No. Con le lame dei coltelli di... acciaio ossidabile, per cui quando li metti a tavola arrivano gli amici importanti che tagliano, non sai cosa succede? Ma c'è un sistema succede che diventano tutti neri perché sono ossidabili. Ma lei è meraviglioso, però la gente rimane quindi stranita. Quindi chi viene a colazione a casa sua, che la colazione Cruciani non è quella sempre, del mattino, la colazione è il pranzo. Quando venite voi vi faccio questo ci servizio. Ci fa mangiare con le posate di Napoleone III. Solo voi due però, Napoleone III. Quanto costa il servizio di Napoleone III? No, beh, quando l'ho comprato io, non li voleva nessuno, in lire, avevo comprato tante lire, costava 10 milioni di lire. 10 milioni. Però parliamo anche Cruciani di 20 anni fa. E oggi? Ma no, non so perché non è apprezzate queste cose, non sono apprezzate. Sono, ma ci avevamo scritto sopra Napoleone III. C'è lo stemma di Napoleone III con la dicitura aiutuac di Tahiti. È un po' d'anziani queste cose qui. Un collezionismo d'anziani. No. Gli argenti. La gente sono la storia del nostro mondo. Tu vai a vedere, io purtroppo non posso permettermi, ma... Cioè Berlusconi colleziona donne, lei argenti, lei capisce la differenza qual è, no? Io sono più sfortunato, ho sempre detto che io sono collezioni. Ho detto sempre che sono come Berlusconi in mignon, quindi passo lui delle donne, io gli argenti. Lo sa che una volta quando venne da noi ci ha detto delle cose e io non sono Berlusconi perché non faccio questo e quest'altro, lui si è arrabbiato moltissimo, lei lo sa bene. No? Lo so, ma io non avevo detto così. Come non aveva detto no, così? No, perché ha litigato con Sgarbi? Mi dia una sua definizione. dichiarazione di Sgarbi definitiva. Io non ho mai litigato come con lo considera Sgarbi? È una persona intelligentissima, non sempre regolata. Che significa non sempre regolata? Che ogni tanto prende la trabisonda. Sbarella. Beh, invece che uno, come dire, preciso. Io sono molto preciso. Quella è la cosa più precisa, cioè la cosa più maniacale che fa. No, nessuna. Maniacale niente. Io sono preciso di natura. Ma con Sgarbi, come si può pensare di fare una cosa seria con Sgarbi? Scusiamo di essere... uno preciso come lei di natura, con quello che è cretino, capra! Come ha potuto mai pensare di fare una cosa seria con Sgarbi? Io non l'ho pensato. Lui mi aveva detto che era diventato serissimo, perché era un momento molto serio della vita. Insomma, è come chiedere a Dracula di non bere più sangue. Cioè, uguale. Si può chiedere. Senta, ma un'altra sola gli ha dato di recente un signore che si chiama Volpe Pasini. Sì? Volpe Pasini. Cosa un'altra fatto? Sola con la moglie, con la signora moglie di Volpe Pasini. Non ha dato nessuna sola. Beh, scusi un attimo, si doveva presentare in Friuli con la lista del MIR, invece poi si è candidata con la Lega in Emilia Romagna perché ha fatto un accordo con Maroni. Ma da gran paraculo qual è, col simbolo per gran volpe qual è? Volpe, ma per me è indifferente. Vede, io penso questo, nella vita c'è una regola che tu... Ma è vero che no, che gli ha dato un po', l'ha un po' ingannata, no, signor Volpe? Assolutamente, assolutamente. Lui ha fatto una scelta sua che io... mi è indifferente, nel senso non mi produce né utile né danno. Sì. Io penso questo, nella vita, date 100 situazioni, questa è la mia esperienza di vita, se uno si comporta sempre in modo lineare, ci sono 3 volte che magari sbaglia, ma 97 ci prende. Io ho sempre fatto così, allora? Mi sono sempre trovato bene. E allora com'è applicabile? No, dice la ruota gira anche per Pasini, questo sta dicendo. Ah, però c'è un messaggio. Verità, un no, non ho detto. Io dico che l'ha io... ingannata, sì o no? No, l'ha presa in giro o no? No, assolutamente. Ma lei è troppo buono. Ma forse è nelle sue intenzioni, ma non nelle mie. No, io non sono buono, io non sono buono affatto. Però ricorda tutto, segna tutto. Io, questo non c'entra voi, Pasini, che è un amico. Io sai cosa dico sempre in altri ambiti ben più complicati, che sono le banche, dove lì sì che c'è. Al conto l'MPS. Lì ci sono, sì. No, ci sono. Io dico sempre, io per mia fortuna non ho il sentimento dell'odio, perché il sentimento dell'odio è un danno che uno fa a se stesso, ti logora dentro. Invece io sono contentissimo sempre. E ti credo, ho tutti i soldi, però, che già anch'io sarei contentissimo. Io sono un ricordante. Un ricordante. Ah, bellissimo. Ma il suo patrimonio a quanto ammonta? Cioè, 11 milioni. Beh sì, sono poco più di 10. Ho detto che pago più di 10, 11. Ho capito, non sarà 11. Ma non lo so, ma con tutte queste perdite. Ma che sono una ventina, 30 milioni. Ma che ne so, lei vuole andare in Parlamento, non è trasparente. Guarda che è una cosa incredibile. Lei bisogna confessare, il mio patrimonio ammonta a 100 milioni di euro. Ma no, ma no, ma 2 miliardi o 3 di euro, 100 milioni è la mancia. No, vabbè, adesso lei scherza, 2-3 miliardi non credo che sia 2-3 miliardi di euro. E come fa a dirlo che non lo... No, non penso, però sarei contento per lei, per carità. Perché no? No, può essere. Allora, mi dica, facciamo una dichiarazione pubblica prima del possibile ingresso in Parlamento. La famosa anagrafe degli eletti. Io faccio una dichiarazione pubblica. Sì. Non ho nessun problema a esibire la mia dichiarazione dei redditi a tutti, dove ci sono tutte le mie proprietà. No, ma il patrimonio a quanto ammonta, più o meno, so, il patrimonio? Non lo so, dipende come valuta le cose. Certo, però 20 milioni, si può dire 20 milioni? Può essere, sì. 20, 30, ma non lo vuole dire, guarda che incredibile, guarda, ci vuole la trasparenza più qui ormai, dieci. Siamo entrati. Ma no, ma siamo entrati più di 10 milioni, più di 10, sì. meno di 50? Meno di 3 miliardi. Vabbè, ho capito. Tra 10 e 3 miliardi. 10 e 3 miliardi, insomma, è una bella vita, dai. È un bello spreco. Ma lei pensa di vendere le riserve auree, deve vendere le sue però. Le mie. Le sue riserve auree. Ma di IMU, quanto ha pagato di IMU lei? No, questo è interessante. Diciamo, non tanto io personalmente solo, diciamo, io e le società. Vabbè, tutto. Io ho pagato 180.000 euro di IMU. 181.000 euro di IMU. 180.000 di IMU. Vabbè, sì, 180.000 di IMU. Ma insomma. Sì, ma no, niente. Ha stramaledetto il governo. Un conto è no, è giusto. Io ho stramaledetto il governo per l'atto criminale che ha fatto sull'IMU della povera gente. Cioè? Pensate che hanno fatto. Ma lei lo vorrebbe pagare... vedere morto Monti? No, assolutamente. No. Impiccato. Ma no? per me è indifferente. Processato. No, processato. No. Io vorrei vedere fuori dal Parlamento tutti i parlamentari che hanno votato determinate leggi di destra e sinistra. Se beh, mi lascia dire, tutto il PDL e anche tutti, quelli della sinistra e della destra. Pensate che hanno avuto il coraggio di approvare una norma che ha messo l'IMU sulla prima casa senza togliere dal valore il debito bancario. Vabbè, è una cosa complessa qui. Complessa, semplicissima. Complessissima. Tu hai comprato una casa e hai speso 300.000 euro. Sì, sì, ho hai capito, fatto ho un mutuo da 200.000, ti hanno fatto pagare su 300.000. Sì, no, è vero. Uno che fa una cosa così. Hashtag vergogna. E sapete cosa hanno fatto il 3 dicembre? Una cosa incredibile, non mi risponde nessuno. Cos'è? Aspetto una risposta anche da Banca d'Italia. Che hanno fatto? Che hanno fatto? Su proposta e favorevole del governo Monti, l'ultimo provvedimento legislativo è stata un emendamento proposto dalla senatrice Bonfrisco del PDL, sì, che è approvata all'unanimità, hanno abrogato l'articolo 136,2 e 2 bis. Legge bancaria, so cosa vuol dire? Che vuol dire? Hanno consentito agli amministratori delle banche di prendere tutti i soldi che vogliono delle banche che amministrano senza più il parere favorevole del collegio sindacale dei degli amministratori di minoranza. È un casino. Chi caccerebbe la centrale? Ma sono i suoi alleati? Tutto il Parlamento. Ma ho capito, ma io non voglio nessuno, se no stavo con tutti. Non ho preso neanche un deputato un senatore nella mia lista. Chi caccerebbe dal centrodestra lei? Dal centrodestra tutti quelli che hanno lavorato ore di lavoro in tutta la loro vita. Quelli che stanno con Berlusconi. Tutti quelli che hanno lavorato, praticamente tutti. Ma questo lo dice non ha lavorato nessuno. Al netto di Berlusconi, che ha lavorato molto, io penso tutti gli altri che sono lì non hanno mai lavorato. Cioè la rovina di Berlusconi sono i berlusconiani? No, la rovina è che non si è certo rovinato. Diciamo che non sono all'altezza di Berlusconi, Berlusconis. Ho capito, però tanto... E quelli sono, però intanto vanno in Parlamento. E che posso farci? Mica gli ho messi io. La odieranno tutti così. A me? Perché? Sì. Io mi sono fatto indietro, gli ho lasciato tutto. Quanto l'è costata la vicenda degli anziani del Pullman? L'avete beccato quello ma, là? Ma sì, che l'abbiamo beccato, ma è una sciocchezza. Anzi, mi ha dato un po' insomma, di notorietà. Viene ricordato come quello che ha iniziato la campagna elettorale con questa storia degli anziani deportati. Sì, questo fa parte... La comunicazione è micidiale. Questo fa parte delle regole del gioco. Uno accetta di fare una cosa... C'è uno che fa una coglionata, 99 sono giuste, e fa vedere la coglionata. Ma che c'entra? Vabbè, facciamo qua una cosa. Lei ci scrive un foglietto che poi scopriremo, vedere quanto piglia il Mira alle elezioni. Quanto prende il Mira alle elezioni. Sì, poi il giorno... Posso fare una forchetta però? No. Perché non proprio la percentuale esatta. Una cifra indicativa del Mir. Cifra indicativa, Giampiero Samorì, avvocato, candidato col Mir, creatore del Mir, che a me mi sembra un elemento, un movimento rivoluzionario che sta per prendere il potere con le armi. Ha firmato, lo scopriamo dopo. Samorì, 31-1-2013, la forchetta ve la dico dopo. No, non si dice, non si dice. Lo mettiamo negli archivi della Zanzara. Lo faccio vedere dopo, sì lo dice, mi prende in giro. Grazie avvocato. Oh ragazzi, datemi il voto tutti, tutti i telespettatori. No, votate Mir! Non si può dare, Mir. Ma che è? Sono io. Ma ce l'avete l'inno o no? L'inno ce l'ha o no? Sì, ce l'abbiamo. Qual è l'inno di Samorì? Bellissimo quello che dice. Mi scusi presidente, io sono un italiano, non sono italiano. Giorgio Gaber, dai. E come fa? C'è io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Ma fai cantare lui. Ragazzi, scusi, com'è? Presidente. Com'è? Quello lì. Lo faccio. Io canto malissimo, io dico tutto, ma devi fare cantare. Devi fare campagna elettorale. Difatti dico, votate per il No, vabbè, come fa? Votate per il Come fa? Lo diceva la Mussolini. Com'è che faceva la Mussolini? Fatemi sentire la Mussolini. Aspetti. La Mussolini col Mir. Mandatemi la Mussolini. Savori quando suona già persa per te fammi dormire. Samorì. Oh, questa la diceva per Alfano, Grazie Giampiero Samorì, grazie. Grazie a voi, grazie. Mi raccomando votatemi tutti. Sì, voi due, sicuro. Sì, avvocato. Mirko da Monza, buonasera, 800 24 00 24. Ma lei, scusi Samorì, mi è venuto in mente una cosa. Ma Berlusconi, Balotelli, ma lei chi compra? Lei che c'ha tanti soldi, compri qualcuno pure lei, no? Ingaggi qualcuno, faccia un colpo pure lei, no? Sì. Si compri il Modena, che ne so. No, il Modena me l'hanno offerto diverse volte. Ma Giovanardi è candidato, lo sa che Giovanardi è candidato al Senato. Mi dica una definizione di Giovanardi, molto molto rapido, scattante. È una persona veramente per bene di un'epoca fa. Ma che vuol dire? Vabbè, ma queste cose mi fanno... Però di un'epoca fa vuol dire che... Ma lei non fa battaglia, dovrebbe dire... È una mummia. Voi. No, chiediamo. Cioè, lui fa... è nato in una società che non c'è più. E noi invece guardiamo avanti, vede che tutti parlano. Sì. Noi guardiamo al 2100. Questi guardano tutti all'800. Ma che... Sei un uomo dell'800, Giovanardi? No, sono Giovanardi, tutti. Monti del 700. Monti fa presto, dice, vuol fare dei ricchissimi e dei poverissimi, cose di tutto il posto. Vabbè, lei fa parte di quello di... Lei dovrebbe comprarsi una squadra di calcio. E sono Cruciani ha ragione, perché con la squadra di compri calcio... Compri il Modena. Io con una squadra di calcio di Serie A, finalmente, dopo un po', torno povero. Perché le squadre di calcio si perde. Solo debiti si fanno. Insomma, mi pare di sì. La Zanzara. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Why don't you go home? Non me moleste moschito. Let me eat my burrito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Eravamo con Mirko da Monza. Buonasera Mirko. Buonasera Parenzo. Allora, due considerazioni molto veloci. La prima che volevo dire, non è assolutamente vero quella di Berlusconi, che è una campagna elettorale su Balotelli, perché il calciomercato esiste da sempre a gennaio. Semmai è le elezioni che sono state messe a febbraio, che di solito non accadeva. Allora? La prima. La seconda considerazione era sulla signora Santalchè. Io volevo già intervenire 3 giorni fa quando... Che ha fatto? Che ha detto ha di detto nuovo? Pubblicamente. Berlusconi intanto dice di essere, Berlusconi dice di essere a 2 punti dalla sinistra, sostiene Berlusconi, come sostiene Pereira. Guardi, numeri, libertà, guarda Parenzo, numeri, devi stare molto attento, sì, perché i sondaggi, bisognerebbe andare a verificare i sondaggi dell'ultimo mese nel 2006 con Prodi. È vero che sono momenti sicuramente diversi. La rimonta c'è stata. No, ma aspetta, lascia perdere, io non sto facendo il tifo per la rimonta, io faccio il tifo perché ci sia un po' di battaglia, però il problema è questo: bisogna andare a vedere l'ultimo mese di sondaggi del 2006. Abolirò l'ICI dal 2006, cioè, ci fu l'ICI? Sì, certo. Non mi ricordo, ci fu un colpo finale nell'ultimo cosa, non so se era l'ICI. Sì, però a fare le pulizie di Pasqua a casa vostra, no, ma al di là di sì, ma adesso tu stai dando un giudizio. Il problema non è quello, è che bisognerebbe andare a vedere com'erano i sondaggi in quell'ultimo mese, perché poi evidentemente quei sondaggi non erano veri, cioè non registravano la rimonta di Berlusconi. Bisogna vedere se c'è una somiglianza con quello che sta accadendo adesso. Mirko? Sì. Mirko, allora? La seconda considerazione era su quello che aveva detto l'onorevole Santanchè sul fatto che lei devolveva il suo stipendio da parlamentare completamente in beneficenza, senza interessarsi né dove va, né a quale Lo ha detto, dice vuole dare in beneficenza, pazienza, che dobbiamo fare? Va bene, però scusi, fanno i decreti per fare la trasparenza sui versamenti oltre 1000 euro e lei versa oltre 1000 euro senza neanche sapere dove vanno a finire. Lo dice così. Ma dove versa 1000 euro? Cioè, allora dove? Tanto meglio un Berlusconi che dà. Ma non ho capito dove versa. A una rubia, almeno sappiamo che faccia ha. Mi scusi, A parte che il paragone è talmente folle che non lo voglio nemmeno commentare. Ma infatti, però quantomeno da una parte uno dice. Ma scusi, se la Santanchè vuole dare lo stipendio in beneficenza, qual è il suo problema? Che quantomeno bisogna sapere a quale società fa beneficenza. Va bene, lo sapremo. Perché ha detto che lo farà sapere. Allora. Scusi, non è che in radio. Non è che il radio si deve vantare di dare beneficenza senza neanche... Vabbè, ma quello va bene, lei lo verificheremo. Ma quello, ho capito, quello verificheremo se verrà eletto in Parlamento, come sarà eletto in Parlamento, perché è quasi certa, anzi sicurissima la sua elezione, verificheremo se poi darà il suo stipendio in beneficenza e a chi lo darà. È contento? Ma certo, se lo auguro, benissimo. Voglio risentire Belè Rodriguez su Berlusconi, Mi chiama Oca perché l'ho rifiutato, perché non gliel'ho data. Belen e Berlusconi. Per fare un passo da re. Persino Berlusconi, cos'è che aveva detto? Ti ricordi in quell'intercettazione? Dai, non puoi non dimenticare. In quale non rinfrescami la memoria, perché l'avevo veramente... In credo che abbia detto, guarda, me lo sono scritto da qualche parte, in un'intercettazione aveva detto che tu non potevi avere cervello perché ti eri messa con... parla male di te e dice una che si mette con questo qua non ha cervello. Era Corona. Non te lo ricordi? Beh, questo forse perché non gliel'ho mai data. Carlo dalla provincia di Monza, buonasera. Sì, buonasera. Volevo dire che secondo me quella vicenda dei consiglieri regionali della Lombardia, quell'indagine, la più ridicola che si sia mai stata fatta. Ridicola. Può darsi, infatti scusi, signor Carlo, come fa a dire che è ridicola? Lei è un ridicola. Lei è un consigliere parlare della Nutella o parlare di un libro. Ma quanto ci è costata questa indagine per queste stronzate? Vabbè, che costata? Ma mi quanto ci costano? Mi fa parlare un secondo? Ma non è un argomento questo. Ma lei, a parte che potrebbe anche non essere un argomento, perché ci sono tante indagini. Inchieste contro Berlusconi, non ho capito. Cioè, le inchieste contro Berlusconi, e glielo dico io, quelle vanno bene, si possono spendere soldi per le intercettazioni, e invece le inchieste su 090 vanno bene anche zero, è una questione anche di principio, di violazione di accertamento di Parenzo sfonda una porta aperta su questo. Ma io dico che fare le pulci perché uno ha parcheggiato 0,90 centesimi, ma quanto ci costa fare le pulci per 0,90 centesimi? Sì, ma guardi, io le posso anche dare ragione, ma il problema è uno solo, che questa inchiesta sulle spese dei gruppi parlamentari nasce da un'altra inchiesta. È stata 0,90 è uno scontrino su tanti altri scontrini, non c'è solo lo scontrino da 0,90, quanto? Non quanto c'è solo la Nutella da 2,70. Bisogna verificare se i 47.000 euro che sono contestati a questo signore del Partito Democratico che si chiama Spreafico sono stati spesi, saranno anche una cifra ridicola, sono stati spesi perché potevano essere per spesi secondo le leggi oppure no, oppure vengono spesi anche, guardi che sono soldi suoi, perché le dà così fastidio che uno faccia un'inchiesta sui soldi che lei dà alla politica, me lo spiega? Allora, 90 centesimi, quanti scontrini ci vogliono per arrivare a 47.000 euro? Ma non è solo 90 centesimi, cioè, è un esempio. È un esempio, è un esempio del cavolo, è un esempio del cavolo ed è un tentativo di dimostrare che dappertutto è uguale e di dimostrare, perché è il solito sistema italiano del cavolo, che i milioni di euro rubati da Fioritto, i milioni di euro ma rubati chi, da Muti lo... sono uguali a 47.000. Ma chi l'ha non detto? È la stessa cosa. Ma chi, ma chi l'ha detto? Cosa. Ma chi lo sostiene? Intanto abbiamo cosa. Detto che c'è un'inchiesta in corso che dovrà accertare la verità e che qualcuno ha chiesto rimborsi complessivi nel corso della legislatura sì, per 47.000 allora, euro. Cercano la verità, allora... e fanno uscire lo scontrino da 2,70 euro. Oppure facciamo così, par condicio, il libro della Minetti di 11 euro, ma che cosa me ne frega a me? Mi dicano se qualcuno ha rubato centinaia di migliaia di euro, allora sì che mi incazzo. No, ma allora scusi, ma non è scusi, ma lei non è che è Spreafico Carlo dalla provincia di Monza, no? No, no, non sono Spreafico, ma comunque lo difendo, ma come difendo? Non lui personalmente, ma in queste situazioni, quelli che sono messi in difficoltà perché devono spiegare uno scontrino, quando c'è gente che si è fatta la villa da milioni di euro, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Allora, comunque, le dico una cosa, guardi, le dico una cosa, io... Allora, aspetti un attimo, Spreafico Carlo, Spreafico si legge dalla procura, dalle carte della Procura della Repubblica. Allora, sono contestati. Poi lui spiegherà e noi ci... Sono contestati una serie di a dargli parola. Carlo, guardi, io posso anche essere d'accordo con lei, dopodiché sui soldi spesi dal... soldi nostri spesi da consiglieri regionali bisogna fare, siccome questi qua non li pubblicano e siccome questi qua non li mettono su internet, non c'è trasparenza, è giusto che qualcuno ogni tanto vada a fare le pulci o no? Ma su quelle robe lì? Ma non sul caffè, su sulle spese comp- vabbè, ma lei non ha capito se qual no è. Si dica semplicemente che quei soldi lì ognuno li può spendere come gli pare, che fanno parte, esatto, dell'indennità. Uno si può comprare le mutandine, i reggiseni, può andarsi a fare la depilazione delle ascelle e poi anche quella veramente incredibile. Vabbè, comunque c'è una cosa da dire, va, per chiudere bene, sì. In ogni caso, come diceva Gaber, la cioccolata svizzera di destra, la Nutella è di sinistra e quindi evidentemente doveva andare così. La cioccolata svizzera è di destra ma la Nutella è sempre di sinistra, ma cos'è la destra? Questa cos'è è la Nutella? Sinistra? Perché non avete cercato sta canzone oggi? Tutto. Tutti noi ce la prendiamo con la storia. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Oh oh! Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Giuseppe Cucciani è un po' di destra. Fare il bagno nella vasca è di destra. Fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra. Il contrabbando è di sinistra. Oh oh! Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma dov'è sta Nutella, oh? Il collanso quasi sempre di sinistra, il reggicalzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti in coro. La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La Nutella voglio sentire. L'ideologia, canta anche tu. L'ideologia. malgrado tutto, credo ancora che ci sia. Qui possiamo... è bellissimo, qui è bellissimo. È con la passione, ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa. Dove non si sa. La Nutella, dove sta sta Nutella? Dire che culatello è di destra. Ma era arriva adesso. Di sinistra. La Nutella? Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Oh, eccola qua. La destra. Allora è vero. Allora è vero, la Nutella è di sinistra, caro Sprea Fico, rispondi. Le zanzare di casa si nutrono di me, quando il giorno scivola via, si svegliano per me, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Cesare da Bari, eccoci qui, 800 24 00 24. Cesare, ciao, buonasera. Dica. L'ho chiamato un attimo. Chi è questo? Aspetta. Quando squilla il telefono della zanzara, il terrore serpeggia nella politica italiana. Spenta. Beh, facciamo l'elogio della Cassazione intanto. Aspetta, l'abbiamo già fatto. L'hai già fatto. Mai troppo tardi. Allora, Cesare? Pronto? Dica. Voi ti siete? Sì, sì, ci siamo, dica pure. No, dicevo soltanto perché voterò Grillo. Perché è l'unico, è un, pur essendo un comico, è l'unico della politica italiana che non mi fa ridere. È l'unico che gli non la fa ridere. A me fa ridere. A me fa ridere moltissimo. Ah, perché gli altri, sì, la, no, facevo, gli altri la fanno piangere. Gli altri fanno soltanto piangere. Sì. È l'unico che non fa ridere. Cioè, come dire, è l'unico che prendo sul serio, capito? Dice, è l'unico che prendo sul serio. Vabbè. No, io no, lei lo dice. Io. No, lei lo dice, Cesare. Vabbè, lo dopo, io. No, dopo questa cosa... responsabilità. Ma non mi fa ridere, dice cose, purtroppo dice, essendo un comico dice cose serie. Vabbè, gli poi, altri non poi... sono, se pensano di essere serie dicono cose che fanno ridere. Vabbè, Daniele dalla provincia di Ravenna, buonasera. Daniele? Buonasera, mi... Vada, sì. Io la sento perché... Non la sento, Paolo da Milano. Pronto? Dica. Sì, sono Paolo, volevo semplicemente dire che io mi sono un po' stancato di sentire sempre critici che sparano le solite cazzate, capito? Volevo semplicemente consigliarli di prendere un grosso masso, sì, e annegare tutti nel mare Adriatico, se ci stanno. Ecco, sarebbe la cosa, ecco, più bella che potrebbero fare. È arrivato il cretino delle 20 e 14. È arrivato il cretino delle 20 e 14. Alle volte andrò, in più. Io andrò alle regionali a votare e alle, sì, politiche annullerò la scheda. E che vuol dire? Perché cioè, differenza tremano tutte. Volevo dire che, cioè, io siamo tutti terrorizzati, siamo da questa cosa, siamo tutti in subbuglio per questa cosa. È incredibile. Ci mette a comunicare quello che farò ad Asta, non volevo, sì, vabbè, ma noi non ce ne frega niente di quello che farà. È incredibile. Niente, comunque vi saluto, siete molto simpatici. Scusi Paolo, ma mi spiega un attimo che cosa significa, sì, questa storia del masso. Pronto? Amico mio, il masso, che vuol dire? Come le è venuto in mente questa, sì, cosa? Perché cioè, devono annegarsi tutti, cioè, sotto le palle, voglio dire, sono 30-40 anni che sono lì, continuano a beccare un sacco di soldi, li sperperano incazzate così, c'è, cioè, la gente stanca. No, lui dice, allora, io alle regionali voto perché ci sono le preferenze, quindi posso scegliere, no, chi mandare. Ma io alle regionali, beh, voto e alle politiche, anzi volevo chiedervi, voi sapete come si fa ad annullare la mia scheda elettorale alle politiche? Ma che c'è? Non basta ci va fare, basta, o no, si può non ritirare oppure annullare, basta che ci scriva sopra, niente, ci fa un, perfetto, segno sopra. Perfetto. Non è che ci vuole un genio così, per annullare la scheda. Ognuno la pensa a suo modo, cioè ci mancherebbe nella vita. Vabbè Paolo, grazie. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. La Nutella! Abbiamo avuto la conferma che la Nutella è di sinistra. Il signor Spreafico pare che abbia comprato, Partito Democratico Lombardia, 2, con 2,70 euro un baratto di Nutella. Bastava mettendecelo vedere, in conto a noi. Bastava vedere i film di Nanni Moretti. Mettendolo in conto a noi, capito? Nanni Moretti non ha mai visto te dei film di Moretti. Te li hanno fregati dalle tue tasche. Infatti, si è comprato la Nutella. Sì, ma infatti, ma è una cosa... Con i tuoi quattrini. Se è vero, mai inchiesta fu più provvidenziale. malgrado. Allora, io però non ci capisco più niente, David, perché qui abbiamo una Mussolini candidata, come sai, in Emilia Romagna, sì, no? Una sì, Mussolini nelle candidata. Terre del nonno, diciamo. Confini, col signor Fini. Con signor Fini. Una Mussolini candidata lì. Due almirante. Sì. Ah, a proposito. Due almirante. Adesso bisogna dare notizie. Sì, aspetta. Due almirante, candidate. In Lazio alle regionali, una però con Future and Liberty. Certo. Futuro e libertà. Future and Liberty. Sì, stranamente, sì, perché poi sì, sai, almirante, un almirante candidata a Confini. Bellissimo. Pare un po' bizzarro, bellissimo, no? Pare un po' bizzarro. Bellissimo. E invece un'altra almirante, che però di cognome fa De Medici, qui bisogna risolvere un po' la questione perché la gente non capisce. Sì, perché in realtà non è la figlia di del signor almirante. Candidata con Storace, che quello mi sembra un po' più, diciamo, dire, coerente, no? Forse. Vai, ma non è detto che ci sia coerenza. Detto. Noi abbiamo con noi uno di queste tre persone che sono coinvolte in questa tornata elettorale. Giuliana De Medici, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, signora De Medici? Benissimo, grazie. Quindi, allora, la signora De Medici è la figlia... Bene? Noi, molto scusi, bene. Scusi, allora, lei Medici, è la figlia ci della donna Assunta. Ad orientarci in questa giungla. Lei, sì, innanzitutto, è capolista della destra di Storace in Lazio. Questo lo diciamo subito. Bene. Allora, benissimo. Allora, lei è la figlia di chi? Io sono la figlia di Donna Assunta. Oh, e del signor De Medici. Questo già è un bel... E questo già per noi è già come lei sa, benissimo, fra l'altro. Come lei sa, sua madre spesso è ospite nostra, qui alla Zanzara. Esatto. L'ultima volta ha litigato con Parenzo. No, ma che abbiamo litigato? Io ho grande rispetto. Vabbè, per ma mamma spesso non litiga, mamma no, discute, ma è no? Vera, ma infatti a me piace. Guardi, moltissimo, perché è una sua donna madre, molto forte. Sua madre è veramente la numero uno. È simpatica. Io lo posso dire, è veramente è la numero uno. È vero, è più numero uno di me. Al di là delle idee politiche, uno può condividere, non può no, condividere. Ma infatti, chi se ne frega. Non c'è dubbio. Sua madre è una da battaglia, cioè, è una persona da abbracciare fortissimo ogni volta. Non c'è È vero, quindi la salutiamo tutti quanti. La salutiamo. La salutiamo. Cara donna Assunta, nonostante Parenzo la prenda no, in giro su questa no, cosa, sul busto, no, lo devi sul dire, busto. Busto, tu prendi in giro, adesso, no, prendi per il sì, culo. Si assuma le sue responsabilità. Appunto, siate no, medici, io ho aiutato, ho provato, sto aiutando perché mi arrivano non segnalazioni. Non stai aiutando, stai giustamente prendendo no, in giro la signora mi Assunta arrivano, per la questione del busto arrivano, di Almirante. Ma la signora De Medici, che è figlia del signor De Medici, cosa gli frega del signor Almirante? Beh, avrà voluto bene pure. È interessata alla vicenda del busto, avrà voluto bene pure l'Almirante, la signora De Medici, no? Scusa. Mi è cresciuta, quindi assolutamente le ho voluto non bene, benissimo. Appunto, allora, per cui abbiamo già dato degli elementi. Lei è figlia di Assunta Almirante, di un altro signore deceduto, immagino. Vabbè, insomma, è inutile, questo è gossip. No, parliamo no, di politica che è meglio. No, aspetti, no, ma che c'entra? No, questo? No, sì. Sì, d'accordo, però... Diamo coordinate per capire. Lei è figlia di un signore che si chiama De Medici, che era il primo marito di Donna Assunta. Signora Almirante. Questo? Va bene, sì. Allora, no, per capire. Invece l'altra almirante, chiamiamola così. Sua sorella. No, non è la sorella, diciamo, la sorella, acquisita. Beh, si chiama sorella. Sì, allora, è invece figlia di Giorgio Almirante e della prima moglie, giusto? Esatto. Oh, esatto. No, perché dove? Sennò altrimenti io oggi non avevo capito, ti giuro. Ci siamo consultati per te. Ma è chiarita la cosa, adesso parliamo dei problemi. Ah, quindi no, adesso l'ho capito anch'io, quindi non è sorella di sangue, diciamo. No, ah, hai capito. Scusi, ma adesso veramente... Quindi donna, no, giusto... No, interrompiamo un attimo. Senza scherzare, quindi donna Assunta ha avuto dato una figlia, scusi, questo... Signora De Medici, sono qui con voi per parlare di problemi seri. No, insomma, ma noi non parliamo sono, di noi non parliamo di frivolesse che credo non interessi a nessuno. Sì, no? Come no? Guardi, noi non parliamo mai di problemi seri, noi parliamo solo di stronzate, dalla mattina alla sera. Ah, sì, parliamo. Me lo dovevate dire subito. Ma scusi, allora, perché la signora perché la signora Assunta Almirante non la sente quando viene da noi, scusi, signora De Medici. No, io purtroppo non mi sento perché lavoro quando. Lo so, questa è una cosa grave. Che lavoro fa lei, signora? Che verrà sanzionata prossimamente anche dal codice penale. Diventerà un reato non ascoltare la radio, in particolare. Lavorare, ma mentre si lavora ci si può distrarre con l'ascolto della Zanzara. Questo si può fare. Quindi può fare, però se uno in avanti lo farò. Se uno non lo fa, dopo qualche mese sarò eletta in consiglio regionale e tornerò a fare il mio lavoro. Ma intanto devi allora prendere i voti, sintonizzerò la radio sul vostro canale. Intanto bisogna prendere i voti per andare al consiglio regionale, mica è gratis. Appunto, l'elezione. Detto, se non mica andrò gratis. In consiglio regionale, tornerò a fare il mio lavoro perché in consiglio Qual regionale è il suo lavoro? Non posso tenere la radio accesa. Certo. Che lavoro fa lei, signora? Allora, io adesso collaboro con mio marito perché ha degli studi odontoiatrici e lavoro con lui. Ah, vabbè, fa niente in pratica. No, perché? Dice no, sì. Faccio niente secondo lei. Consideri che io entro in studio alle 9:30 del mattino e ne esco intorno alle 21:30. Addirittura? 22. Questa è la addirittura. Mia vita. Cioè, sì, suo marito sì, è un dentista? Mio marito è dentista. Ah, io avrei tanto bisogno. È la società civile. Di farmi trapanare un dente. Ah, vuoi fare una parente di ammiranti? Ma le posso dare l'indirizzo? Vuoi fare... fare un po' di pubblicità? No, un po' di sconto. Lui vuole lo sconto perché centro è ebreo. Centro odontoiatrici San Giorgio. Essendo molto tirchio, io sono uno dei tanti luoghi comuni. Cioè. Guardi che noi abbiamo dei prezzi ottimi. Abbiamo ottimizzato i costi e capito? Quindi facciamo dei prezzi del 50% circa in meno della media. Capito? Hai capito? Capito? Hai capito? Ma lei chi ci va a fare? Chi è più figlio? Scusi, siamo dei medici. Giorgio. Ma che fa la doppia marchetta allo studio odontoiatri? 654. Una cosa vergognosa. È il nostro numero verde. Ma se rende conto? Ma no, una cosa incredibile. Una cosa pazzesca assoluta. Scusi, allora qui abbiamo il signor Giuliano De Medici e l'altra, come si chiama l'altra? Rita Almirante, no? Sì. Giusto? Allora, sì. Chi è più figlia di Almirante? Ma guardi questo. Mi dica la verità. So, mi dica la verità. Chi è più che la vera erede? Chi è più coerente? Chi è? Chi è più figlia da quel punto di vista? Dal punto di vista politico, chi è più figlia dell'ammirante? Ma dobbiamo chiederla a Gianfranco Fini, questo che ha deciso di presentare in lista, come voi dicevate, la Mussolini e l'ammirante. È lui che deve darci questa risposta. Anche perché Fini ha sempre ultimamente rinnegato Giorgio Almirante. Sì. Io, per esempio, non lo ricordo da anni alle nostre manifestazioni della Fondazione Almirante presente. Cioè se ne frega di Almirante ormai, dice lei, no? Ma sì, ha tentato di prendere le distanze in questi ultimi tempi, da ormai parecchio tempo. Insomma, cioè l'ha no? pugnalato alle spalle, cioè lui l'ha messo sul piedistallo e poi Fini la... Cioè una specie di un traditore, una cosa pazzesca, una persona che ha rinnegato il suo passato. Ha rinnegato il suo passato, ha cercato di cancellarlo, di farlo dimenticare alla gente e presentarsi come una persona diversa rispetto a chi era, quello che era qualche anno fa. E sua sorella perché si è candidata là? Scusi, perché se ne frega del padre? Ma lo deve chiedere a Fini perché si è candidato. Io non ma lei non ha rapporti con sua sorella? Pochi? No, io non ho rapporti. Pochi rapporti. Lo dovete chiedere a lui. Sempre sua sorella è però. Io posso dire perché mi sono candidata io. La sua sorellastra, mi sa che lei non ha rapporti con la sua sorellastra. Perché non hanno dico, però io le posso dire perché mi sono candidata. Ma lo sappiamo, uno si candida per fare il bene del paese, della regione, tutte queste stupidaggini, su questo tutte lo sappiamo. Stupidaggini, ma lo sappiamo, queste le sappiamo, sono le cose queste che si dicono. Sappiamo, sono le cose dicono che le stesse cose. Ma lei dicono le stesse cose. Quanto userà in campagna elettorale il nome di Almirante? Cioè anche nei manifesti, guardi, nei volantini. Come oggi non credo che poi la gente sia interessata tanto al figlio di nipote. Beh, insomma, dai, un po' conta. Forse vabbè, qualcuno per carità. Se lei non era la figlia di Donna Assunta non la candidavano, su, diciamo la verità, signora De Medici. È normale. Sono una donna che ha sempre lavorato. Sai quante donne hanno lavorato, ma bisogna prendere voti poi. Ho laureata in scienze politiche, ho un curriculum quello pure io, rispetto, quindi. No, per carità, mica dico di no. Pubblicista. Ma bisogna poi prendere i voti, questo va benissimo, perché poi bisogna prendere i voti. Prendere i voti, ma infatti nessuno regala niente a nessuno, no? Sto girando Roma e la provincia di Roma. Ma ha fatto bene Berlusconi a dire quelle frasi su Mussolini o no? Ma io ritengo di sì, ma perché non dobbiamo ricordare alcune cose positive? Io vorrei ricordarle le torture. Aspetti, mi faccio parlare che questa è una cosa importante. Le torture, i treni che arrivavano in orario. Il sindaco Veltroni ha finanziato una mostra sull'Eur che ha girato tutta l'Europa. Sì, ma non è che ha fatto l'elogio di Mussolini, però, sindaco Veltroni. Ha fatto, non è questione di fare ha finanziato una mostra che gira tutta l'Europa, che mostra le opere che ha fatto Mussolini. Ho capito, ha mostrato l'evoluzione dell'Eur. Sì, ma non è che ha detto ecco l'opera, ecco l'Eur di Mussolini. Non è che ha fatto la cosa così, ecco l'Eur di Mussolini. Allora, ha fatto una cosa sull'Eur, e l'Eur è vero che l'ha creato Mussolini, però ha fatto una mostra sull'evoluzione del quartiere Eur a Roma. Certo. Cioè non è che ha detto poi. Ma chi l'ha voluta quell'evoluzione? Okay, questa è una sua considerazione. Un conto è mandare una foto in giro dell'Eur di Roma. Un conto è dire che Mussolini ha fatto tante cose buone nel giorno della memoria. Comunque, perché lei non si parla? Perché lei non parla con sua sorella? Perché non vi parlate? Ma questi sono fatti miei, scusi. Ma questa è una casa di vetro. Sono fatti anche che, tra l'altro, secondo me non interessano neanche gli ascoltatori. Ma interessa. Ma questo lo lascia decidere. Dobbiamo parlare di problemi. Lo lascia decidere a noi. A parte gli scherzi, dobbiamo parlare di problemi. Mi spieghi perché non si sente con sua sorella? Ma che gliene frega a lei? Ma sì, sono curioso. Ma saranno beghe, curioso, ma sono beghe familiari o politiche? Sono questioni politiche o familiari? Ma saranno cose di eredità, cose di quattrini, di solito. No, no, guardi, eredità non proprio, guardi, su questo sbaglia veramente, perché Giorgio Almirante non ha lasciato eredità tali da poter nulla discutere su queste cose. Voi con Giorgio Almirante ora adesso veramente non mi fate arrabbiare. Ma Mussolini è stato un grande statista Giorgio o no? Almirante, Mussolini è stato mi faccia finire. Giorgio Almirante è stata una persona che è stata onesta, ci tengo a precisarlo, certo, questo, vabbè, è una cosa su cui non si scherza. Parenzo, ma il busto dov'è? Quindi, il busto dov'è? Dov'è l'ultima notizia? Dov'è il busto? Se lo trovate vi do un premio. Dov'è il busto? No, Parenzo, l'ultima notizia che ti stato... Il busto l'avranno squagliato, perché oggi come oggi, poveracci, siamo talmente ridotti male che la gente si attacca pure a rubare un busto al cimitero per squagliarlo. Per squagliarlo che ci fanno squagliandolo? È stato ritrovato la sede. Guadagnano qualche soldo, che ci fanno? Perché di che cosa era sto busto? Di che cos'è il busto? Di bronzo. Vabbè, ma il bronzo non vale niente. Cioè, c'è più un valore affettivo che non valore. Comunque, guarda, mi è arrivata un'altra segnalazione, perché è stato segnalata la presenza del busto. È arrivata la sede dell'ABI. La sede dell'ABI. All'Associazione Bancaria Italiana. All'Associazione Bancaria Italiana. Perché ci fa? Scusa, l'ABI. È arrivato là. È la segnalazione. La segnalazione. Sì, però è verosimile che sia lì all'ABI. È andato lì a controllare il nuovo. Alla sede dell'ABI. La sede dell'ABI, nuovo presidente. Ma non faccio il cretino, Però è così, signora Assunta, è così veramente. Lì, sede dell'ABI. Scusi, ma è solo quell'unica segnalazione di oggi all'ABI? Per ora all'ABI, perché l'altra non è attendibile. Ma che cosa sai? Io non vi seguo più e non vi capisco più bene. No, perché hanno segnalato, abbiamo lasciato questa grande campagna, hashtag segnala dov'è il busto di Almirante che è stato rubato. Ah, voi queste cose fate? Bravi, ma infatti un servizio. Ma infatti, ma l'avete trovato? No. Ripeto, mi è arrivata adesso, ma no, mi arrivano segnalazioni di continuo, come chi l'ha visto, cioè mi è arrivata adesso la segnalazione che hanno trovato il busto di Almirante all'ABI, ma un'altra poco fa dice che invece il busto sarebbe, il condizionale ed obbligo, sarebbe a casa di Mussari. Comunque a casa di Mussari. Basta. Comunque mi sembra che questa ironia su un busto rubato al cimitero non è proprio di buon gusto, Ma è un busto, a casa di Mussari dice che si è rubato pure cose. Un po' di cattivo gusto questa ironia su una cosa del genere, diciamoci la verità. Ma ride pure sua madre sul busto. Ride pure mamma, meno male che ride. Senta un attimo, ma lei Mussolini secondo lei è stato un grande statista? Mussolini, io non ho vissuto il fascismo, perché sono No, ma è stato secondo lei un grande statista, sì o no? Dire di aver vissuto il fascismo. D'accordo, ma è stato sicuramente ha fatto delle cose positive e sicuramente ha fatto dei grossi errori. Ma un grande statista, si può dire un grande statista? Sicuramente è stato un uomo importante. Un grande statista. Un grande statista. Churchill è stato un grande statista. Ma no, Mussolini ha fatto la guerra, ha fatto delle cose orribili. Ha portato l'Italia in guerra. C'erano dei medici. Ha portato l'Italia in guerra. Dobbiamo contestualizzare. Com'è che ha detto? Com'è che disse Fini? Beh, contestualizzare. Com'è che disse Fini? Com'è che disse Fini? Fini? Il male assoluto. Hanno fatto la guerra. Il male assoluto, no? Fini definì Mussolini il fascismo, male assoluto. La cosa più bella che ha fatto Mussolini, qual è stata la cosa che ancora le ricorda con grande affetto? Io non ricordo perché no, ripeto, non ho lo so, ma la cosa fascismo, più bella che ha fatto, qual è stata? Sicuramente in quel periodo c'è stata la mancanza della libertà, ci sono state tante problematiche. Ma la cosa più bella qual è stata? Non lo so. Come fa a dire che è stato un grande statista? Mi dovevo preparare. Vabbè. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Certo che l'uscita di Ferrara qualche anno fa sul traffico fu, ti ricordi, no? Ferrara sul traffico potrebbe essere qualche volta applicato anche ad altre cose, alla borsa e ad altre interruzioni di tutte le trasmissioni, in particolare della zanzara. Che dici, Parenzo? È assolutamente così. Sei d'accordo o no? Dammi conforto. Assolutamente. Potrebbe essere così. Tranquillamente applicata. Ma non di questa radio. Di questa radio, sì. Però vi devo confessare una cosa. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio. Ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Vabbè. Ma poi la cosa bella è che a un certo punto dice: vabbè, Si arrende, anche Giulianone si arrende, Giuliano Ferrara, alle strade in diretta. Si è arreso Giulianone. Forte Giuliano. Daniele dalla provincia di Ravenna. Evviva la Cassazione! Eccoci qua, buonasera. Forza Cassazione, avanti tutta Cassazione! Fumare in gruppo non è reato, la Cassazione lo ha insegnato. Si è mai fatto una canna lei, Daniele? Mi sente, pronto, salve. Si è mai fatto una canna lei? Sì, la sto facendo in questo momento. Parenzo vuole un tiro? No, ma è tanto che non fumo io. No, non è vero, prima non è vero. No, ma che non è vero? Lei si è mai fatto una canna di gruppo? Io sì, ma non sì, inalavo. Infatti, io odiavo quelli che come lei facevano finta perché giustamente lo sprecano, è la verità. E lo so, me lo dicevano anche a me, lo sprechi. Quando confessavo la cosa, guarda, io in realtà, perché poi a un certo punto lo dovevo dire che non fumavo, perché non mi andava che qualcuno dicesse che fumavo, no? Allora dicevo, guarda, io sì, metto in bocca la canna, sento l'odore perché l'odore non è male qualche volta. Ma però scusi, provi un tè a questo punto, Cruciani. Sì, infatti io sono un grande bevitore di tè. Guardi, le piacerebbe molto con effetti. No, ma l'odore, ogni tanto l'odore della canna, l'odore del fumo è un buon odore, no? Cioè c'è a chi piace, insomma, no? Cioè, può piacere, a me piaceva. Allora, eravamo in gruppo, lì mi passavano sta canna, facevo un tiretto, ma non aspiravo, dunque era nulla, come il sigaro in pratica, ma non, nemmeno, perché non lo mettevo nemmeno in bocca, perché comunque non mi piaceva. E basta, finiva così la storia, capito, Daniele? Ma lei manco quella si è fatto, però, manco quello. Sì. Vabbè. Recupererà in futuro se vorrà. Senta, vabbè, allora... la chiamavo per questo motivo. Intanto, vabbè, qui in Romagna, visto che Parenzo ogni tanto è appassionato di sindaci, c'è Buda che ha proposto l'esposizione del busto di Mussolini, così ci ricolleghiamo anche all'intervento. Chi è signor Buda? Come? Buda? Chi è signor Buda? È il sindaco generale di Cesenatico, sì, che ha proposto. Ma bisogna chiamarlo, roba. Sì, bisogna chiamarlo. Bisogna fargli una telefonata. Ma sì, quello del busto Buda. Di Mussolini, sì, esatto. Perché l'altro qui, tra l'altro, Parenzo e Cruciani, qui a Faenza, nella mia città, il giorno della memoria c'è stata una tomba sfregiata di una signora. L'ho visto, quello ho sentito. È zona mussoliniana. Quello ho sentito. Vabbè, senti, io la chiamavo per questo. Ci vediamo a Mirandola sabato, saremo tutti a Mirandola. Tutti a Mirandola in collegamento in diretta per la 7 in onda. Vabbè, ma chi se ne frega questo qua? Ma perché? Ma chi se ne... Sarò in diretta a raccontare le storie dei terremotati ignorati da tutti e soprattutto da questo governo. Vabbè, che gli ha fatto pagare l'IMU. Allora, io sarò a Mirandola sabato sera. L'attore ravennate Ivano Marescotti contro il sindaco di Cesenatico. Se c'è Mussolini cancella lo spettacolo. Caro Marescotti. No, c'ha ragione Marescotti. Ma che c'ha ragione Marescotti? Ma che vuol dire? Ma ogni comune fa quello che vuole, è una parte della storia italiana, su mica deve essere Reietta. Ma nessuno, infatti bisogna studiarlo, infatti. Ma la giunta PDL, Lega UDC vuole installare un busto e l'attore Ravennate minaccia di annullare la presenza per marzo. Gli sputerò sopra. Chiamatevi Marescotti domani. Voglio Marescotti in diretta qui. No, ma perché non chiamiamo? Cosa? Perché te la prendi con il signor Marescotti e non con quelli che vogliono esporre il busto di Mussolini? Perché io sono amante dei busti, perché a me piace l'arte. A me piace l'arte, mi piacciono i busti. Quindi non è arte. Mi piacciono i busti. A casa tua. Beh, ho capito, mi piacciono i busti. Che dunque in non una posso piazza mettere il busto di Mussolini. Vabbè. Mi pare una roba proprio. Daniele, che vuole? Sì, io la chiamavo per questo, però mi deve rispondere. Lei per chi voterà? Mi dia un metro di misura, la prego, anche in privato, anche su Twitter. Ma è un mese che lo sto dicendo, Daniele. Ho detto voto Giannino, anche se mi dà fastidio il fatto che molto probabilmente, ma non si dovrebbe dire, non raggiungerà il 4%. Probabilmente me ne fregherò, andrò a votare lo stesso Giannino. Dopodiché sono abbastanza incerto. Potrei votare Grillo. Ah. Potrei votare Grillo. No, è impazzito, ha fumato una canna, via. No, non è vero, questo non è male. Senta, Cruciano, un'altra cosa. Al di là di tutto, qui passa veramente il messaggio. Aspetti che siamo un attimo, tutti uguali. Aspetti. Cassazione! Oppure c'è l'altra canzone. Oi Maria. Aspetta. Giovanardi, dove sei? Giovanardi, dove sei? La Cassazione ce lo ha insegnato. Fumare una canna non è reato. Daniele, allora chiudiamo sto collegamento. Su, Daniele. Ciao, fratello. Posso chiedere un'altra cosa? Anche tu, fratello, ti prego. Pronto, velocissima. Senti il gusto, che buono, fratello di Giamaica. Senti, fratello. Non è che uno se fuma si deve ridurre per forza, come dici tu. Non dicono così. Ciao, fratello, come stai? Vabbè, Daniele, senti, allora come ti posso prendo aggiungere il cervello, un'altra cosa, fratello? Visto che passa il messaggio che sono tutti uguali, io vorrei che qualcuno, anzi ognuno di noi, si occupasse del fact checking, cioè del controllo della verità, perché i siti ci sono se si va su Google, e soprattutto c'è openpolis.it che pubblica, certo, i minuti di presenza nei vari organi. e le cose che uno ha fatto, così almeno uno chiarisce con se stesso prima di votare. Così. L'ultima cosa, la prego, sia gentile con gli ascoltatori, perché voglio dire, lei è una persona intelligente. Ma quando mai? Noi li mando a fare in culo quando voglio, loro mandano a fare in culo me, io mando a fare in culo loro quando è il caso. Detto con parole, non c'è bisogno di restringere. Un attimo. Ascoltatori, chi è questo? Ma questa sera è complicato. Chi è questo? Butta male. Stasera butta molto male. C'è la canzone Oi Maria dedicata alla Cassazione e al signor Giovanardi. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Alessandro da Cremona, buonasera. Alessandro. Sì, buonasera Rogiani, mi sente? Vada. Come si dice lì a Cremona, terra di torre? Come si è mai fatto una canna lei, no, Alessandro? Senti il detto di Cremona, che si dice torre, torre, no, com'è? No, com'è no, le tre T di... un canarolo. Le non tre, è un canarolo. Le tre T di Cremona. Volevo dargli io una risposta che lei ha chiesto alla figlia, perché anche voi adesso state facendo come il PD... E hanno i reduci, le vedove, i figli, i figliastri. Allora, l'unica cosa decorosa che ha fatto Mussolini nella sua carriera politica, secondo il mio parere, è quella quando si è assunto la responsabilità del delitto Matteotti. Lì è stato un autentico marpione e anche di una intelligenza politica. Per tutto il resto era un personaggio patetico, basta vederne i filmati, insomma, no? È che gli italiani probabilmente erano messi in quelle condizioni. Ma io telefonavo per tutt'altra ragione. Mi interessava, mi sono stato stimolato da argomenti sulla giustizia. No? Allora la giustizia in Italia è una cosa molto teatrale, diciamo, sempre con le sue tragedie collegate. Allora chi ricorda il caso Tortora è stato ammazzato dai giudici, però non è successo niente, anzi hanno fatto carriera. Voi non sapete che un magistrato può andare in pensione a 60 anni con 120 anni di anzianità? Fate un'inchiesta su questo. Altri casi con 120 anni può andare in pensione con 120 anni di anzianità di servizio con 60 anni di vita. Verificheremo. Lei davanti allo specchio, mentre nuda si dà lo smalto alle mani e ai piedi, lei mentre si depila le ascelle, lei seduta su uno sgabello si sistema l'inguine grazie a un rasoio da barbiere. Ma cos'è questo? Uno specchio ben posizionato consente allo spettatore di capire la tecnica. Lei vestita solo di una camicia mentre Carponi lecca il latte da una ciotola. Vabbè, ma quello sai. Al collo ha una catena e un lucchetto, quindi eccitata non può evitare di masturbarsi. No. L'estasi la fa sdraiare di lato sulle mattonelle bagnate. Beh. In spagnolo. Sempre facile pure cucinare che ci resto. Ma quanto lo dejo. No estás aquí guiandomi mano. La idea de tu mano, la vibración de la cuchilla me insinúa el deseo de empujármela dentro. Ahora no, estoy rasurada como a ti te gusta. Mi cuerpo, tu cuerpo echado en el suelo. Manuela. Non c'entra nulla. Fiorella Ceccacci Rubino, deputato della Repubblica, ha fatto un film con Tinto Brass. Uno dovrebbe ammetterlo però tranquillamente. Perché questo, lei invece in questo perché la lei l'ha cancellato? Io difendo però, l'onorevole. Ma certo, la difendo anch'io. Ma perché l'ha cancellato? Tutte le professioni sono nobili. Perché fare l'attrice in un film di un grande maestro? Perché è uno degli uomini come Tinto, sì. Ma perché l'ha cancellato dalla sua biografia? Ma l'ha cancellato. Lei lo ha cancellato. Ma come l'ha cancellato? Cioè, se uno va sul sito della signora, non trova. No. Beh, con noi uno dei più grandi intellettuali italiani del momento, Flavia Vento, buonasera. Buonasera, ma ieri che è successo? È caduta la linea. È una tragedia, guardi, però io ho avuto una grande idea, Flavia. E si è fatta male la linea quando è caduta? Ho avuto una grande idea, vediamo, riflettici bene e poi domani mi dai una risposta. L'idea è questa, è quella, da qui alla fine della campagna elettorale, io vorrei ogni sera il punto di Flavia Vento. Con una sigletta che faccio, sì. Tu però ti devi informare durante il giorno, sì, devi leggere una cosa, devi leggere delle cose e poi quello che ti ha colpito di più della giornata politica, te la senti o non te la senti? Certo, certo. Certo, ma figurati. Guarda che domani lo faccio, faccio costruire una sigla, Ma va benissimo, io sono a disposizione. Se c'è cazzo fa tutto il giorno. Vabbè, ma io ti devo leggere la poesia di ieri. Com'era la poesia di ieri? Poesia. No, ho capito, ma dove sei? Non fate cadere la linea, sei tu che hai fatto cadere la linea ieri. Allora, vai. Eccola. Sì, dimmi. Si corre. Sì? Si corre come un atomo invisibile in questa atmosfera. Ma l'atomo è invisibile? Stai zitto. Il ferro, le stelle, l'acqua e la vita. Si corre come una cellula impazzita in un corpo astratto, fermo e che passa come una cometa. Beh, aspetta, la devi ridire perché c'è stato un momento di interruzione, ti prego. La vuoi ripetere dolcemente? Guarda, tu hai una voce talmente avvolgente. Allora, si corre come un atomo invisibile in questa atmosfera. Sì. Il ferro, le stelle, l'acqua e la vita. Si corre come una cellula impazzita in un corpo astratto, fermo, e che passa come una cometa. Ecco, guarda cosa le dico io. Beh, siamo terra, terra, giusa, terra, di che? Terra, siamo terra. Ma non è vero. Le poesie di Flavia Vento. Lei già ha trasformato questa trasmissione in un postribolo. Ma che postribolo? Postribolo di mostri. E ora ci fa anche la rubrica con il punto della signora Vento, che non ha detto con il massimo rispetto alle ore 20:51 perché ha in macchina un cazzo da dire. Ha un atomo in testa lì che gira solo alla ricerca di qualcuno e di compagnia e lì che ronza. Dice, ma è possibile, scusi, che ci sia solo io qua dentro? Cosa? Ma lei da quanto non va a letto con una donna? Ecco, brava. Beh, lei non può capire questa cosa. Lei non può parlare, perché, però, ma perché lei fa questa questo reductio ad unum? Ma lei non può parlare da questo punto di vista, però, cioè. No, vabbè, però insomma, mi sembra un po' acido. Ma scusi, non è scusi, ma lei ha deciso per chi se votare? Non la considero Goethe. Io? Goethe. Scusi, ha deciso per chi votare o no, signora Vento? No, non lo so proprio. Comunque, Monti non lo voto. Monti no. Ecco, e perché non vota? Meglio Berlusconi di Monti, addirittura. Ma io credo meglio nessuno, credo che la giustizia in Italia va rifatta tutta. Certo, questo Corona dovrebbe essere fuori dalla galera perché comunque ha fatto. Sì, comunque a me mi dispiace per Fabrizio perché comunque non si merita tutto questo. Ma questa è una valutazione politica proprio profondissima che ha fatto, sì. Secondo la giustizia italiana, crede la stronzata che ha detto, ma era meglio quando stava dentro un coso di vetro lì sotto zitta in televisione. No, io lo so, Twitter, e posso parlare quanto voglio. Non so se ha letto che Dante sarà paragonato a me. No, lei ha scritto, veramente, non è che ha letto, ha scritto lei. Sta roba. Ha scritto qualcun altro. Ha scritto e comunque ho 33.000 follower. Sì. 33.000, io ce ne ho 70.000. Sì. Però io ne ho, piano 27.000. Arrivo pure io, no? Sì, io sono come Dante, ha detto, guardi, mi capirete forza, solo da morta. A forza di dire minchiate, per forza. Ma no, ma lascia perdere, perché secondo me no. Guardi, sai chi mi voglio fidanzare con Sonavento? Scusi, io con le Ma lei, Sonavento, vuole fidanzarsi con suo Cruciani? Con io comunque il topo gas gas, perché oggi mi è venuto a trovare il topo gas gas e il topo Gigio, io comunque piano piano raggiungerò. Ma chi è chi è adesso, perché il topo gas gas, gas, è il gas è quello di Cenerentola, perché noi stiamo costruendo qui al castello. Ma noi chi? Ma quale castello, di cosa? Ma di che parla sta pazza, poveretta? Io vivo nel castello. Vive nel castello? Ma quale castello? Ma lei delira, Vento. No, io vivo in un castello, mi scusi. Stiamo costruendo un vestito, perché quando arriverà il principe dobbiamo avere questo vestito, perché Cenerentola ci deve, insomma, deve unirsi. Ma il principe come deve essere? Ceneventola, altro che Ceneventola. Ceneventola, dai, ma... No. Comunque, guardi, la invito pure a lei. Se vuole venire una sera a cena al castello, lei è benvenuta. Guardi, se ho una giornata di depressione totale, voglio immergermi nella deficienza, vengo sicuro. Da morire. No, certo. Il tritone Axaur, che è simpaticissimo. Senta un po' una cosa, senta una cosa. Povera Cenerella, resta un attimo tranquilla. C'è qualcuno che le strilla. Cenerella! Cenerella! Comunque, se vuole venire, c'è il tritone Axaur, che è simpaticissimo. Ma chi è il tritone Axaur? Axaur. È il tritone, è metà pesce e metà uomo. Ma che abitano da lei questi personaggi? Ma lei si fa di allucinogeni? Sì, sono tutti con me. No, ma lei no. Si è fatta molto di allucinogeni nel passato? Lei si è mai fatto una canna, signor Vento? No, io sono contro le droghe, mi fanno schifo. Vabbè, ma è il miglior spot a favore della droga, la signora Vento. Perché se non si è mai drogata, ed è in queste condizioni, è una cosa di una gravità inaudita. Cioè lei invece, lei è il miglior spot. Ma sì, certo, salutiamo il dottor Giovanni, ben in casa, applausi, ma grande Giovanni, autore televisivo. Ben in casa. È qui dietro, è dietro, è qui dietro in regia. È lui l'eroe che ha messo questo vento dentro un coso di plexiglass. È lui l'eroe. Lei lo conosce, signor Vento? Ma come no? È l'autore del di Libero, che non lo conosco. Certo. Ma grandi... Ma dov'è Giovanni? È dietro la regia. Una specie di criminale. Lo dico. Comunque, guardate che l'immaginazione e la fantasia sono le cose più belle. Sì, non c'è dubbio. Da quanto non scopa lei, signor Vento? Da quanto non scopa? Questi termini non, da quanto non faccio l'amore. Ma no, io sono un po' brutale nelle cose, sono un po' brutale. Lei invece da due ore sarà. Non lo posso dire questo qua, Da due ore. Allora domani c'è la rubrica, eh? Domani c'è la rubrica. Oh, domani. Bene, allora vi saluto così. Insomma, domani lei deve passare. Non dico legga almeno un giornale, legga un sito. Legga una riga. Io volevo farvi una domanda perché sì. Non l'avevo ancora capito. Ma quel giorno c'era veramente la polverina o era finta? No, era vera. Era vera. Ma questa non capisce un cazzo veramente. Ci sentiamo domani alle 18:30. Saluti. Ciao. Beppe Grillo apre la bocca con le proposte economiche, io vi devo fare riflettere. Il problema è che i mercati e l'Europa ci manderebbero l'ambulanza in Italia con quelle proposte. Cioè. Gargamella ha avuto il coraggio di dire: se ci toccano li sbraniamo. Hai succhiato per 20 anni Berlusconi, lì dovevi sbranare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Come umano lei, molto umano, ciao. Radio 24. La passione si sente.